Possiamo iniziare, ragazzi? Sì? Allora, come vi avevo preannunciato, oggi facciamo una lezione a due voci, che poi in realtà sarà una la sua, con il professor Aliberti. Il professor Aliberti, del quale vi ho accennato nelle lezioni precedenti, ha insegnato matematica in Bocconi per circa 25 anni. Però noi oggi lo interpretiamo invece più per un'altra sua attività, per i corsi di formazione che ha svolto in quasi tutti i maggiori enti di formazione manageriale che abbiamo in Italia, da quello dell'ENI a quello della FIAT, se ricordo bene. Alla Telecom. E così via. No, Telecom magari si perde, meglio non dirlo tanto. Beh, aspetta, allora, è alla scuola più grossa. Ecco, vedi. Allora, noi oggi cercheremo di spiegare cos'è un modello di simulazione, a cosa serve nel processo di formazione delle decisioni. La diapositiva che state vedendo si riferisce alla società fondata dal professore, che appunto fa questa attività di formazione, e questo è il corso base. Il professore è tecnologicamente molto più bravo di me, per cui ha un potente supporto di immagini e di slide che io assolutamente non ho, anche perché non saprei manovrarlo, come voi sapete. Forse per sua gentile concessione, una riduzione di questo, riusciamo a metterla sul mio sito fra le attività didattiche, per cui poi potrete ritrovare queste slide, che io spero vi servano anche per altri esami, non solo per questo. Questo esame voi sapete che lo ripeterete molte volte, però comunque io spero che questo vi servirà anche, che so, per altri esami che avete in programma. Beh, non diciamo altro. Naturalmente, siccome si tratta di una cosa a cui probabilmente voi non siete abituati, perché non fa parte del tipo di formazione che vi viene impartita, è probabile che ogni tanto ci sia un momento di insicurezza. Allora facciamo così: aspettate che il professore finisca di illustrare la slide, un secondo, vediamo se c'è qualcuno che vuole un chiarimento veloce, non una discussione, un chiarimento veloce, la discussione magari la facciamo alla fine, e viene dato il chiarimento sul momento. Però aspettate che sia esaurita l'illustrazione della singola slide, va bene? Io ti ringrazio di quest'ultima cosa. Se posso, interrompetemi tranquillamente, non c'è nessun problema. Non sono abituato. No, ma invece è molto utile, è più utile a me che a voi. per dirla chiara. Il problema della formazione di questo tipo, la formazione, diciamo, che noi chiamiamo di tipo magistrale, è che c'è poco feedback. Siccome oggi parlerò tanto di feedback, datemelo, va benissimo. Permettetemi un'altra cosa, grazie Aldo, troppo lusinghiero, però vorrei darvi l'ottica, le eventuali deformazioni, anzi le deformazioni tipiche che vengono fuori sempre da quanto si parte. È vero, io sono laureato in matematica, è altrettanto vero che io la matematica classica l'ho applicata poco, perché sono entrato in azienda 7 giorni dopo essermi laureato, e da allora ho sempre vissuto tra l'azienda e poi questa mia società, e la parte nostra formativa era, per me voleva dire il 20-25%, per la mia impresa voleva dire il 5% del fatturato. Noi esistiamo dal 1970, quindi abbiamo proprio dal 1 gennaio 1970 abbiamo festeggiato i 40 anni proprio quest'anno con un grande banchetto che ci ha distrutti tutti. Però il discorso di fondo è che noi abbiamo sempre fatto questo stranissimo mestiere di cui in Italia non esiste l'equivalente. C'è stato qualche tentativo, ma in realtà i nostri veri concorrenti italiani sono sempre stati alcune università, in particolare Siena, molto Bocconi. Io però poi mi sono messo a insegnare in Bocconi dall'82 e quindi mi è cambiato anche quel discorso lì. Noi produciamo modelli che servono ai managers per prendere decisioni. Oltretutto produciamo quei modelli, e in particolare quello è il mio campo, io indegnamente sono anche il capo supremo, ma il discorso di fondo è che io sono il responsabile della parte simulativa. Simulare significa entrare oggi nella stanza dei bottoni a livello dei capi supremi, dei manitou. E in effetti noi in Italia siamo tuttora leader di mercato in questo campo, li abbiamo conosciuti tutti. Questo però è ovvio, come ogni cosa ha i suoi contraltari negativi. Io ho una visuale tutta aziendalistica, neanche economica, perché oltretutto io non sono di cultura economica. Io non ho mai dato un esame di economia, perché a matematica non si fa, credo tuttora. Anche se mantengo poi un rapporto con l'Università di Bologna, facoltà di matematica, però io ho sempre lavorato con facoltà economiche. Questo è però una deformazione grossa nei vostri confronti, no? Cioè io vengo qui come un corpo estraneo. Questo signore però lui scommette, e io la penso come lui, ma sono di parte, che l'approccio manageriale, che ha portato tanti risultati, li vedete nel bene e nel male, è però quello giusto. Un giorno anche a livello della politica, anche credo a livello della sociologia, eccetera, eccetera, si parlerà di modelli a supporto della presa di decisione. Il fatto che siano modelli matematici non vi deve quindi, questo è il lato positivo, assolutamente mettere in allarme. Io sosterrò la necessità di una visuale matematica del mondo, ma nel contempo non c'è bisogno di una conoscenza di base, c'è bisogno di quella conoscenza logica, che dovrebbe far parte del bagaglio di chiunque lavori nel mondo, sia lavori in università, sia lavori presso le imprese, siano le imprese pubbliche, siano le imprese private. Per dirvela tutta, le persone, perché allora, ai tempi in cui ero giovane, erano loro che avevano le redini delle imprese, a quei tempi io, quelli con cui ho bisticciato di più sono gli ingegneri, perché erano gli unici che conoscevano matematica. Ma il discorso di fondo è che la matematica serve, nel senso che è la scienza formale che si appoggia su un grosso, oggi ormai è vero che sia così, su un grosso bagaglio logico. E io credo che la logica, che coincide poi con la razionalità, se permettete, sia l'unica cosa. Il resto è bello, è sublime, è arte. Però se vogliamo intervenire sul nostro mondo, a mio parere la ragione serve tutto. Questo per dirlo. Nel contempo, ecco, quello su cui sono enormemente in difficoltà è che io non mi sono mai occupato d'altro che non siano faccende, dico economia se preferite, perché inevitabilmente c'entravo dentro, ma che siano faccende aziendali. Io ho lavorato per le più grosse, a partire da Fiat, che è tuttora il nostro best seller, è quello a cui vendiamo di più, per finire a tutte le altre. È chiaro, conosco poco la piccola e media impresa, ma attraverso la Confindustria e le associazioni ho conosciuto anche loro. E il discorso quindi è molto deformato nei vostri confronti. Mi aiuterà lui. Però nel 2001, quindi ormai sono 9 anni, quando noi ci siamo, no, noi nel 2002 in realtà il fatto era già avvenuto, avvenne un fatto strano nel nostro mondo, che ci mise in dubbio su alcune basi, su alcuni concetti, mise in dubbio anche gli stessi top managers con cui lavoravo, è l'attentato alle Torri Gemelle. L'attentato alle Torri Gemelle rappresentò per noi il senso che forse non era tutto economia, non era tutto scambio di denaro, non era tutto scambio di servizi e di merci come sospettavamo. In particolare quella figura di quei signori che si buttavano con degli aerei contro dei palazzi ci ha messo un po' in dubbio. Dal 2002, diciamo grosso modo, noi abbiamo cominciato a occuparci come impresa anche di cose che non sono economiche. Per esempio, abbiamo messo in piedi, un po' di nostra iniziativa, un modello terrorismo di cui qualche pezzettino, se riesco, ve lo faccio vedere. La grande ambizione della mia vecchiaia è quello di riuscire a entrare in un mondo dove non siamo assolutamente mai entrati. Ecco, ve lo dovevo come presentazione perché sono deformato e troverete esempi molto deformati e tutto. Garantisce questo signore l'esportabilità al vostro mondo, di cui io cerco adesso di cominciare a entrare in qualche dettaglio, in qualche aspetto, in qualche essenzialità soprattutto, ma ancora ho le mie difficoltà, ecco, ma d'altronde le ho anche con gli economisti, se solo per quello. Allora, io ho sviluppato un discorso che tocca quattro punti. Tocca il punto della presa di decisione manageriale, a mio parere un punto fondamentale di tutte le decisioni che si prendono a livello, diciamo, del cambiamento di qualcosa che effettivamente conti. La meccanica, quali sono i fattori che sono in gioco, alcuni concetti. Il che mi induce poi, e mi rendo conto che può essere quello noioso, mi induce a entrare nel concetto di variabile. La variabile è la materia prima, non solo del costruire modelli, non solo del fare matematica, ma anche del prendere decisioni. Se prendete decisioni avete a che fare con variabili, con grandezze, cioè che possono essere espresse con dei numeri, hanno possibilmente dei valori numerici, se non glieli date state già sbagliando. Questo concetto di variabile è un grosso scoglio, perché la scuola non ci ha mai educato, e vale per chi sia umanista, per chi sia ingegnere, eccetera, eccetera. Gli ingegneri sono quelli che tanto le padroneggiano meno. Nella terza fase entrerò nella teoria dei sistemi. La grande teoria che è trasversale dalla biologia all'economia, alla sociologia, eccetera, eccetera, ovviamente la vedrete attraverso i miei occhi, che è la ragione, il troncone su cui si sviluppa quello che fa tanto incavolare i nostri managers di oggi, il concetto di complessità, che sarà l'ultimo. Affronteremo non solo il concetto, perché si dice in due parole, affronteremo anche però la questione dei mezzi a disposizione di chi prende decisioni, lasciatemelo chiamare un manager perché sono abituato a fare così, anche se poi quello lì è un politico, è il responsabile di una regione, di un comune, eccetera, eccetera. Questo signor manager può avere a che fare con alcuni strumenti. Quello supremo, lo devo dire, modestia a parte, è certamente un modello matematico. Ma comunque sia, ci sono in questo campo degli strumenti disponibili a tutti, faticosi peraltro, ma disponibili a tutti per migliorare grandemente la propria presa di decisione, il che vuol dire gestire la complessità. Certamente ci sono dei limiti in cui la complessità non può essere gestita con la nostra povera mente umana. Forse un fatto solo, è ormai riscontrato anche statisticamente, ci sono d'accordo anche i sociologi, noi tendiamo a vedere il mondo, vi anticipo un concetto che poi svilupperò, variabile per variabile. Ecco, il sistema non è variabile per variabile, ma è sistema, no? È un insieme di variabili caratterizzate da certi comportamenti. Bene, se riusciamo a superare questo scoglio abbiamo già fatto più della metà per trattare la complessità. E in effetti la stessa lezione io la faccio in banca, a livello di top management bancario, troverete purtroppo molti esempi bancari perché poi mi è mancato all'ultimo momento un'esemplificazione più vasta per motivi di casini aziendali. Ma il discorso di fondo è che secondo me vanno a finire dovunque. Se tu hai in mano, anticipo, poi ovviamente definisco, quella che è la rete sistemica, sei già oltre la metà nel gestire la complessità. E la complessità è la grande minaccia dell'uomo oggi, perché dietro la complessità, non ne parliamo perché è un discorso non solo difficile per voi, ma soprattutto difficile per me, no? Però il dubbio, io nella vecchiaia volevo poi dedicarmi a questo, ma poi ho visto che interessa poco, il dubbio che dietro un concetto di sistema veramente complesso, una condizione di sistema veramente complesso, ci sia la condizione di ingovernabilità. Ecco, questo aspetto è fondamentale, e la rete sistemica è appunto un mezzo per venirne fuori in un modo o nell'altro. Allora, partirei dalla presa di decisione, se permettete. Io sono scommesso, non sono mica tanto detto. Ah, allora, lasciatemi, ripeto, parlare di manager, ma decidere, no? Quando è che la presa di decisione diventa degna che se ne parli un momento, no? Perché se voi pensate alla presa di decisione vi vengono in mente tante cose, no? Sto ancora in campo manageriale. Il manager cambia la moquette del suo ufficio, è certamente una decisione. Il manager ha deciso che va a lavorare a casa perché è tranquillo e non gli rompono le scatole. È certamente una presa di decisione. Però noi staremo soprattutto nel campo in cui la presa di decisione è un modo di far fronte a una deviazione di rotta da parte del sistema di cui mi sto occupando. E queste cose cerco di analizzarvele bene, perché proprio ancora stamattina ne abbiamo parlato, in campi diversi non si accenna a questo fatto ed è molto euristico invece avere perfettamente in mano la meccanica della presa di decisione. Allora, il primo problema della presa di decisione è decidere di decidere. Quando decido? Decido quando io ho un segnale d'allarme, uno scostamento fra dei risultati che noi battezziamo insieme o variabili Y minuscolo. Questi risultati, attenzione, risultati, quindi cose vere, cose del mondo, cose che stanno qui davanti a noi, questi risultati non corrispondono, ovviamente in negativo, alle attese che noi chiamiamo Y maiuscole, l'insieme delle variabili Y. Allora, attenzione, la variabile è la stessa in termini vocali, anzi è essenziale che questa condizione sia letta sulla stessa variabile. Io non posso confrontare pere e mele in buona sostanza e dire c'è un gap fra le pere e le mele. Però una sono le Y piccole, le Y minuscole sono dati, fatti, situazioni, fenomeni, eccetera eccetera, chiamatele come volete. L'altro sono robe che sono nella testa di qualcheduno. In un'azienda è molto facile definire chi sono nella testa del Manitou che la comanda. In Fiat sono nella testa di Macchione, in Eni di Mincato, no, Mincato non c'è più, eccetera eccetera. Ecco, c'è molto di arbitrarietà in questo e così via. Però nelle aziende c'è un elemento supremo che governa poi tutte le cose e per i rami dell'azienda scende fino a livello del middle management, che è quello poi l'ultimo che prende decisioni, perché gli altri non le prendono. Ed è il fatto che l'azienda colloca al suo vertice la redditività. Una banalità, perché la redditività non è che ricavi meno costi, soldi che ti entrano in casa meno soldi che ti escono di casa. Se vuoi essere molto raffinato, ma è già molto, in effetti poi ci sono indicatori che gli economisti su cui hanno lavorato, sulle finanze, ricavi meno costi fratto capitale, che ti dà così la dimensione specifica. Qui una parentesi, fin qui voi avete assistito alla spiegazione dell'assunzione di decisione manageriale in azienda, ma in realtà questo schema è applicabilissimo anche alla politica, allo Stato. È sufficiente che voi sostituiate alla parola redditività un altro concetto, quello di sicurezza. Compito dello Stato è assicurare la condizione di riproduzione della vita associata. sia rispetto all'eventuale minaccia entropica interna, cioè la minaccia dell'entropia interna, sia rispetto alle sfide esterne, quindi minacce che possono venire allo sviluppo economico, agli approvvigionamenti alimentari, a quello che voi credete. Quindi in questo senso è sufficiente che voi sostituiate a redditività sicurezza, che è un concetto dinamico, perché ovviamente sicurezza significa il mantenimento anche di certi rapporti di forza, per cui se gli altri si rafforzano io non posso restare fermo, perché altrimenti il mio rapporto di forza e quindi la mia sicurezza diminuisce. E allora è sufficiente che voi sostituiate il termine sicurezza così inteso a redditività e ricavi e costi in termini di costi, spesa politica, che non è solo denaro, è anche investimento di risorse umane, di altre anche qua, cose, e certo anche qui, e ricavi è il risultato che voi avete in termini di rapporto di forza rispetto alle sfide interne ed esterne. Quindi, come vedete, la struttura logica del ragionamento rimane esattamente la stessa, anche se ci stiamo riferendo a campi completamente diversi. Ti stai cacciando un po' in un pasticcio, ma solo dalla tua parte, che è la quantificazione, no? Perché quantificare la redditività è facile. Sapete che il sistema dell'impresa c'ha la contabilità, anzi, chapeau, il controller, no? Questa figura che è lui che la misura, è lui deputato a misurare. Misurare la sicurezza è un po' più difficile, ma vi assicuro che è altrettanto necessario, perché se la sicurezza è quello, peraltro noi l'abbiamo già fatto, è un modello neanche enorme, fa parte del modello terrorismo, noi abbiamo misurato l'ordine pubblico. Gli hai fatto vedere. Perfetto. Quindi misuri attraverso queste cose qui, a limite un po' aggregata, eccetera, eccetera, perché ne parlerò per forza, perché non ve lo risparmio. Però la condizione essenziale è che qui ci sia una quantificazione, quel meno non vuol dire solo una misura aritmetica, vuol dire che c'è dentro un numero, lì dentro. Attenzione, il sottolineo ancora. Il rapporto è fra il risultato e l'attesa, l'obiettivo se volete. Qui ho molte invece considerazioni conflittuali con l'amico Aldo, perché io non so se poi è così cosciente a livello di quel discorso sicurezza l'obiettivo, e non so chi lo formula, teoricamente dovrebbe essere il popolo, no? Perché siamo in democrazia. Allora, l'istanza di quantificazione la superiamo facilmente, l'istanza di definire quindi qual è la situazione dell'ordine pubblico la definiamo facilmente. Facilmente si fa per dire, ma non è difficile, ci mettiamo un quarto d'ora, cioè se avessi una lavagna ve lo faccio. Ma il discorso grosso è l'attesa, e quindi lo scostamento, il momento di intervenire, quando è? E questo è un po' più difficile, perché va al governo questo e c'ha una sua idea, che tra l'altro si rifiuta di dire, no? Va al governo quell'altro e ce n'ha un'altra. Direi anche, se volete, contribuiscono molto i politologi, eccetera, eccetera, a incasinare ulteriormente le cose, con dei concetti abbastanza balordi, eccetera. Ve lo lascio, però tenete presente, il segnale d'allarme è uno scostamento negativo. Le cose non stanno andando bene, devo cambiare la rotta. E la rotta? Se volete, ma è veloce la cosa. Se volete è veloce. Perché c'è un'impalcatura che agisce, sembrerebbe che noi interveniamo solo sulle eccezioni, no? Gli scostamenti. In realtà lo scostamento di rotta è continuo, dovunque, in tutto il mondo, in tutte le imprese. Questo porta il concetto di rischio, che è misurabile attraverso la varianza, una cosa che quando farete statistica imparerete in 5 minuti, ma che comunque, per darvi un esempio, qui c'è la redditività dell'esercizio Fiat fra il 2005 e il 2009. Vedete quanta varianza ha avuto, come è andato, no? Non so se riuscite a leggere i diagrammi, io applico le cose tradizionali sull'asse verticale o asse delle ordinate o asse delle Y, ci metto l'effetto. Asse verticale o asse delle ordinate o asse delle Y, ci metto l'effetto. Asse orizzontale o asse delle ascisse, o faccio il segno in contraddizione, ci metto la causa. Nel caso specifico sintetizzo le molte cause dell'andamento della redditività Fiat in tempo, anni. Ecco, vedete che le imprese sono, insomma, poi la Fiat in particolare, sono organi a rischio come lo Stato, come noi, ecco, se volete, come il comune, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi la presa di decisione è un fenomeno praticamente continuo, in buona sostanza siamo sempre fuori rotta, anche perché magari le attese crescono, quasi come con quello. In impresa l'obiettivo, la caratteristica fondamentale è che l'obiettivo, cioè quel redditività attesa di Manitou, è distribuita sul sistema in due modi: verticalmente secondo la gerarchia, orizzontalmente secondo la funzione o il processo gestito. Non so se mi sentite, io ho un boccione, ma trasformando quello che erano soldi in altre cose, per cui si va molto vicini a concetti qualitativi di cui parlava prima Aldo. Per esempio, un intelligente direttore del personale mi aveva molto colpito parecchi anni fa quando diceva la direzione del personale, qualcuno di voi ci arriverà perché sono molto tipici, sono estratti dal vostro ambiente, noi siamo presi per fare delle lotte sindacali, in realtà noi siamo i responsabili del clima interno dell'impresa. E misurare il clima è un'altra roba che non è così facile, perché non è clima quello meteorologico, no? Ma il discorso era giusto: in che misura poi il clima si lega alla redditività. È chiaro che un'azienda che ha un cattivo clima, ed è facile dimostrarlo, penalizza la redditività dell'impresa e così via, molto di più che avere la pace sindacale, quello che, per cui sono nati i direttori personali d'assalto, che fino agli anni 80 hanno sguazzato tranquillamente nelle realtà aziendali, hanno anche, se volete, culturalmente dominato, no? Mi pare è stato fondamentale la sconfitta del sindacato delle grandi imprese e il dominio dei direttori del personale. Romiti è stato il grande certo. Era il dominio, tra l'altro nelle imprese è un punto di svolta che gli storici un giorno lo potrebbero fare. Io per adesso non lo faccio ancora, se no mi mandano i carabinieri a casa perché vengono fuori le cose, ma è stato proprio il momento del passaggio del cedimento del potere degli ingegneri agli avvocati, cioè no, non proprio agli avvocati, ma diciamo ai laureati in giurisprudenza, che con tutto l'odio che provo per gli ingegneri, eccetera, eccetera, ho conflittuato per anni, ma in modo divertente, ma comunque sia, però essere nelle mani degli avvocati è veramente, vi assicuro che è stato terrorizzante. Ma c'è, al peggio non c'è mai fine, perché adesso siamo nelle mani dei finanzieri. Oggi l'ottica finanziaria, che tra l'altro è un'ottica fortemente basata sulla matematica, peraltro intesa come statistica, una cosa orripilante se non la sai usare, e non la sa usare nessuno nel mondo, salvo tre o quattro, le cose vanno sempre peggio. Infatti io ho molta pena per le nuove generazioni, lui lo sa benissimo, io non ho avuto il piacere di avere figli, ma ho due nipoti a cui sono affezionato e ogni tanto dico: dove andate a finire? Sono più o meno della vostra età, no? Forse leggermente più anziane, e dico: dove andate a finire, ragazze mie? Ecco perché. Glielo ho detto in un call center, se lo sentono dire molto spesso, sì. Vero ragazzi? Comunque, no, ma poi anche l'ottica spaventosa, perché questi finanzieri è una cosa terribile, no? Ce ne sono alcuni che sono al limite della bestialità umana e dei Manitou. Io devo dire, ho avuto, perché Romiti era cattivo come una peste, però le decisioni le sapeva prendere, su questo noi non siamo d'accordo. E tra l'altro l'abitudine di prendere decisioni è qualcosa che ci ha molto di nato, anche se io ho passato la vita ad insegnarlo, e ha anche delle caratteristiche che con la cultura in senso classico, mi spiace doverlo dire, non hanno a che fare. Io ricordo, voi siete giovani, non ricordate, fu un trauma per tutto il mondo, ma in particolare per noi che lavoravamo alle imprese, il conflitto Romiti-Ghidella, no? Ecco, io per esempio avevo tutto in comune con Ghidella, ingegnere. Ghidella era uno che aveva cultura, era uno che metteva umanesimo anche nel conto economico e nello stato patrimoniale, però perse, perché le decisioni che sapeva prendere Romiti lui no. Era anche, ci chiedo scusa, era anche bravissimo nel fare le macchine. La 1 che salvò la Fiat e che cambiò le cose l'ha inventata lui, seguendolo dal centro stile fino all'ultimo pezzo, della carrozzeria. E tra l'altro era anche bellina allora, ha vinto la battaglia con la Golf, no? Appena Romiti andò al potere e cambiò la linea e ci ha messo tutte le circonvoluzioni, perché lui amava molto quel tipo di cose, un po' curve e tutto. Però Ghidella, io devo dire con tutto l'affetto, perché è un uomo che poi ha avuto grandi disgrazie, sono stato molto affezionato, però sono stato anche di quelli che hanno detto hai perso, te lo meritavo, perché non sapeva prendere decisioni bene come l'altro. Quindi in qualche caso la cultura può fare velo, questo non vuol dire che deve venire meno. Allora vi dicevo, ecco, nel sistema diciamo politico, nel sistema non aziendale, non economico, forse questa distribuzione è meno facile, ma non che nell'impresa sia facile, per carità, se io facessi questa lezione in un'impresa ci passiamo mezz'ora a vedere come si distribuisce la presa di decisione. Però qualcosa si sta facendo, in particolare questo è dovuto a un grande strumento che è stato introdotto più o meno con la mia giovinezza aziendale, il budget, no? Che ha cominciato a girare, che ha cominciato a rendere esplicito. Perché capita molto spesso, non a caso ve le salto, ci sono parecchie slide che parlano di come si determinano gli obiettivi, perché è vero che escono soggettivamente, ma a un certo punto si devono materializzare e esplicitare, se no non hanno la funzione, se no il sistema va in crisi. Creare valore, per esempio, è una di quelle cose su cui ci dovremmo un giorno scannare, è una delle cazzate enormi della consulenza che sta creando problemi a tutti, no? Ve l'anticipo un momento perché la leggete su tutti i giornali, anche perché i nostri manager quelle cose le capiscono subito, le usano e contribuiranno ulteriormente alla catastrofe che ci aspetta dietro l'angolo, no? Cioè, a un certo punto si è detto la redditività di un'impresa, che è facile definire perché è l'obiettivo supremo, no? Perché se non c'è redditività, se quel valore ricavi meno costi diventa negativo, dopo un po' il capitale s'azzera e l'azienda chiude, muore, no? Come una persona, è come se non mangiasse in sostanza. Tu devi avere un valore positivo che rimpolpi sto capitale che già per sua natura tende a consumarsi. Hanno sostituito col valore. È la più grande società di consulenza del mondo, che impazza, che ha costruito i manager attuali. Valore, hanno detto, ma cos'è il valore dell'impresa? Quindi il valore complessivo, che di per sé è interessante, no? Cos'è il valore patrimoniale dell'impresa? No, per carità, è il valore di borsa. Ecco, mettersi su un casino così è stato tendenziale. No, questo, ho fatto però una divagazione, no, non devo fare, stiamo perdendo tempo. No, ma è una cosa che loro hanno affrontato, perché ci fu un giorno in cui spiegavamo i nuovi prodotti finanziari, in cui io spiegavo la differenza tra ricchezza reale e ricchezza simbolica, che uno degli studenti mi chiese, ma io ogni tanto sento alla televisione ieri in borsa bruciati 18.000 miliardi, cioè per definizione in economia quello che guadagna uno rimette l'altro e quello che rimette uno guadagna l'altro. Allora che significa bruciati? Io ti spiegai che appunto significa semplicemente che il valore nominale delle imprese era sceso e che quindi in realtà era un incendio del valore simbolico, non del valore reale. Gli impianti eccetera stavano dove stavano, era il valore di borsa, cioè il suo valore, il suo apprezzamento in borsa. Quindi questo ve l'ho già spiegato, è questo il discorso del valore. Sì, ma poi che ha la cosa più diabolica è che la borsa è un mercato. È un mercato parallelo, ma è un mercato spesso in antitesi col mercato dell'impresa. Prova ne è che in America tutte le volte che ci sono licenziamenti collettivi il titolo sale. Tra l'altro quella stessa azienda di consulenza che ha venduto il concetto di valore vende il concetto di fate crescere le risorse umane, che è una contraddizione diabolica, che io non so come la reggono, perché quando licenzi il valore del titolo sale, ma però tu stai depauperando anche in una visuale, se volete, di Dickens, ecco, che tu debba licenziare delle risorse significa che un po' della tua ricchezza, il know-how se ne va via, no? No, il titolo sale in borsa, e certo, perché si economizza sull'impresa, ma a breve termine il futuro, e noi stamattina proprio parlavamo per esempio, per stare nel vostro mondo, nel mondo politico, che cosa si sta facendo di drammatico con la scuola italiana, ma non da oggi, purtroppo da svariati anni, credo grosso modo dagli anni Ottanta, no? La scuola, sempre peggio, sempre meno preparata, sempre più disgraziata, adesso ancora sciugata un po' di risorse, creerà della gente che non sa assolutamente fare nulla. Questa gente diventerà insegnante e preparerà sempre meno tutti gli altri. Si chiama feedback, ne parleremo a lungo, ma questo è un problema di tipo drammatico. Ecco, lì per esempio manca proprio un obiettivo, una dichiarazione. Che tu abbia tirato anche a medio lungo periodo, no? Siamo arrivati a delle barzellette pazzesche. Io mi ricordo quando si era detto, siccome noi abbiamo molti dropout in Italia, ma li hanno un po' tutti, anche in America, eccetera, eccetera, non sarà certo il vostro caso, li abbandoni, accorciamo l'università, così avremo meno abbandoni e la laurea si ottiene in tempi più brevi. Ragazzi, allora tanto vale a parlare di un giorno solo, così il giorno dopo erano tutti laureati e non avevamo problemi, nelle statistiche europee passavamo al primo posto. Ecco, questo tipo di cose però viene anche nelle imprese, per esempio questo concetto di valore è drammatico e voi sentite alcuni che vanno in televisione, i manager veramente bravi vanno poco in televisione, ma comunque vanno in televisione e dicono io ho lavorato per il valore delle imprese. L'ultimo caso fu la Telecom, nostro grande cliente da molti anni. Quando l'ha presa in mano già i predecessori, il Ragionat che era con la Ninnum, io l'ho conosciuto bene ai tempi di Olivetti, eccetera, eccetera, avevano lavorato molto pro domo loro, ma quando si è arrivato a Tronchetti, ragazzi, poi mi farà causa, cacchi suoi, ma comunque sia, è stato veramente un bagno di sangue, eppure lì c'era tutta la consulenza dietro, il discorso creiamo valore per gli azionisti si sono visti dimezzati il valore delle azioni, ma in compenso l'impresa peggio, perché la Telecom è sempre stata un'azienda di esuberi, no? Di personale. Però come hanno fatto i tagli è stato drammatico. Uno dei tagli grossi è stato appunto la scuola, la SS, GRR, dell'Aquila, la scuola di formazione manageriale, che fu chiusa ed era la più grossa d'Italia. Certo, facevano un po' poco, figurati all'Aquila, isolati. Andarci da Milano o da Torino o da Roma all'Aquila era un viaggio. Però ragazzi, togli la scuola di formazione e non la sostituisci con nulla. Qualche problema sul futuro te lo crei, ragazzo mio, e devo dire che quei momenti lì stanno peggiorando e non vi invidio, ecco, non vi invidio come generazione da quella. Allora, il problema del ricevere il segnale di scostamento, stante la diversa natura, non è un problema piccolo, lo salto bellamente perché ho un discorso che è prettamente manageriale, però se volete poi approfondire questa cosa e magari avremo un'altra occasione di parlarci, mi piacerebbe molto sentire voi e cominciare a ragionare su quello, perché non ho nessuna esperienza in merito. Andiamo avanti. Allora, riassunto, la presa di decisione, ho dei segnali, guardate la parte centrale di questo diciamo pseudodiagramma. Io devo interpretare dei segnali di scostamento, per dirla in termini aziendalistici, delle minacce. Dopodiché io delibero, cioè cerco di capire che cosa c'è in gioco, quali sono i fattori. E alla fine scelgo che cosa fare. In realtà, siccome siamo a livello di decisioni manageriali, e questo però avviene anche nel vostro caso, scelgo che cosa fare, perché non sono io poi, salvo proprio rarissimi casi, non sono io in primis. Il manager fa fare, non fa lui, comanda in sostanza. Ci sono decisioni, ci sono pseudo decisioni, certe volte ti appare una e una sola opzione, ecco, è una pseudo decisione, non ci pensare molto, ci staremo sopra, non abbiamo tempo, sto vedendo che siamo andati buono. Ho degli esempi bancari, ecco, per esempio, però tanto ve lo cito solo perché vi è vicino e non è difficile. Allora, per dire che comunque non è mai un problema facile. Qual è uno dei problemi del direttore del personale che si prende in carico la variabile, questo incide molto sulla redditività, soprattutto in banca, la produttività e il rapporto fra carico di lavoro smaltito e risorse umane impiegate è bassa. Il mio concorrente fa meglio, i non migliori fanno ancora meglio, eccetera, eccetera. No? Ecco il segnale d'allarme. Produttività bassa. Su che cosa può agire? È lunga il discorso, per quello che prendere decisioni non si fa mai così facilmente. Puoi intervenire sui carichi di lavoro, per esempio ridisegnare i flussi, In banca c'è ancora molta burocrazia, i carichi di lavoro vanno in giro, eccetera, eccetera. I carichi di lavoro sono pratiche, normalmente, fatte ancora o su computer o su carta. Oppure può fare delle economie di scala, specializzare molto le persone, lo si sta facendo. Oppure può intervenire sui doppioni e sui lavori inutili, ce n'è a iosa ancora nelle imprese. Oppure può intervenire su fenomeni di obsolescenza di che ti possono creare dei problemi. Per esempio, tipicamente bancario è quello che tu sei affollato, sei l'arretrato, eccetera, eccetera, per cui non rispondi più alle telefonate dei clienti. Lo dico perché avevamo il problema l'anno scorso, non rispondi più alle telefonate dei clienti. Che cosa succede? Che o perdi il cliente e danno la redditività è grosso, oppure che il cliente ti viene a trovare e si siede davanti a te. Quello che tu potevi sbrigare in 3 minuti, perché mi paghi la media delle telefonate forse 3, ti ne impiega 20, 25, 30 o addirittura 2 ore, perché quello lì poi te la intona e te la conta, eccetera, eccetera. Ecco, per dire, questi tipi di problemi che sembrano cretinate, no? Piccole banalità, ma tu devi cambiare il sistema, devi intervenire su. E via, sinergie, variazioni cariche di lavoro, eccetera. Oppure intervenire sulle risorse, hai sbagliato i profili a cui hai riferito certe cose, il numero delle persone, le banche sono tuttora in esubero di personale, ma guardate un caso che è uno dei più belli e forse più storico, mi piacerebbe occuparsi, quando hai degli esuberi hai sempre delle carenze. Non ti capita mai di avere esubero e solo esubero. Tu hai esuberi e anche carenze. Quindi quando tagli, di solito, ma anche per motivi tuoi, perché non sei abbastanza dentro la materia, oppure per ragioni di vincoli contrattuali, eccetera, eccetera, tu tagli come un matto, tagli sia l'esubero che la carenza, e dopo un po' sei nella stessa situazione di prima, ti mancano tutte e due, ti manca quello che non faceva un tubo e ti manca quello che però ti portava avanti il sistema. Ecco, questo è stato il nostro modello, la ricaduta del concetto. Qui siamo all'11 settembre 2001, cosa poteva fare Bush? Quali erano le sue prese di decisione? Attenzione che è una sintesi, è un aggregato, queste variabili che vedete, poi vi do meglio il concetto di variabile, è un tipo di variabili che si spezzano poi in mille altre variabili sottostanti. Aveva la possibilità di guerra, quella a cui peraltro ha ricorso. Aveva degli interventi di polizia, quelli che sono andati malissimo invece per mancanza di collaborazione, così, no? Mi ricordo c'erano stati problemi. Aveva delle sanzioni verso i cosiddetti stati canaglia. Aveva degli interventi finanziari, quegli altri che non sono andati tanto bene, io lo vedo dalla banca, poteva cercare di inaridire le fonti di finanziamento dei suoi nemici. Aveva la questione degli aiuti umanitari in sospeso, quella di cui si parla e di cui mancò assolutamente un piano e un intervento. Ognuno di questi mezzi aveva la caratteristica, questo è stato poi il nostro modello, cerco di dirvelo in modo più facile, comunque presentava due dimensioni, la dimensione estensione, cioè entravamo nei concetti un po' di geopolitica che si capisce poco cosa vuol dire, almeno io sono povero matematico, non capisco queste cose, comunque la dimensione geografica, i soggetti in campo, eccetera, eccetera, ma anche la questione dell'intensità, e dopo analizzeremo una cosa vuol dire l'intensità nella lotta al terrorismo. Tutto questo è stato misurato in percentuale, quindi vedete che sono cose molto qualitative, come parlava prima Aldo di clima, no, lui parlava di sicurezza, io parlavo di clima. Sono qualitative, però le misure per esempio con un dato di percentuale, perché hanno un dominio queste variabili, poi ci ragioniamo su cos'è il dominio e così via. L'antagonista di allora, che forse è ancora l'antagonista adesso, l'abbiamo un po' equiparato a un'impresa, anche per educazione, per cultura personale. Però ho visto adesso alcuni studiosi americani lo stanno facendo a tutto spiano. Bin Laden su cosa agiva? Sulle risorse umane. In fondo il focus del suo sistema è la risorsa umana, né più e né meno di un'impresa. Avrebbe potuto rivolgersi ai grandi soloni delle risorse umane. C'era una figura di risorsa umana però apocalittica, che veramente, se ci riflettete sul piano etico, sul piano storico, probabilmente quella figura di quello lì che si ammazza in nome della religione, io la sento già poco, sono ateo, ma ma vedo che anche altri, è ostico, è, pensatelo un po', tutta la nostra cultura, produrre gente che s'ammazza per un alcunché. Ci sono riusciti i giapponesi durante la guerra, a parte che l'hanno fatto con qualche decina di piloti, ma nessuna. Tu vieni da Torino, che è la città di Pietro Micca, però, Sì, ma sei sullo slancio, è un fatto emotivo, non razionale. Quello è razionale, non scelto. No, no, Pietro... razionale il fatto di non fumare polveri. Tu scelto. Pietro Micca, non ho mai pensato a Pietro Micca. E a Torino c'hai una delle strade più grandi intitolata a Pietro Micca. Sì, è vero. Quindi i nostri kamikaze li abbiamo anche noi. Comunque vengo dal contarlo, Sì, ho fatto vedere sentato. Allora, kamikaze fiancheggiatori, il nervo, no? L'addestramento, li deve pure addestrare. La tecnologia che usa, grosso problema, no? Dietro c'è la questione delle armi di distruzione di massa, c'è le basi, varie. Gli impianti e le basi, perché ne ha bisogno anche lui, non può fare tutto virtuale. E poi il posizionamento geografico, dove fa gli attacchi? Noi per esempio del modello abbiamo la parte bersagli, che è molto carina, perché l'abbiamo individuati. Noi abbiamo azzeccato la Spagna quando è successo quell'attentato alla stazione. E abbiamo avuto il riconoscimento tramite lui dei signori dei servizi segreti. L'abbiamo detto prima che succedesse, che sarebbe successo. Certamente non sapevamo che era la stazione di Atocha. Sapevamo però che era la Spagna. E anche il mese. E anche il mese, giusto, hai ragione. Mese e dove? Questo ve lo risparmio. Un direttore della RAI aveva un suo sistema, che è poi Piero Celli, aveva un suo sistema molto empirico, però andiamo fuori, io non sono ancora arrivato alle X, questo in qualche modo io gli spiegherei, cioè lui diceva, io ho vissuto tutto il suo sentiero di carriera, siamo coetanei, lui arrivò alla direzione generale della RAI in un momento, diciamo, in cui c'era una relativa autonomia, subentrava alla nostra sindachessa, però era espressione dell'altro partito, e gli diedero un po' di autonomia. Non so se qualcuno lo ricorda, perché eravate bambini, erano gli anni dei professori, no? Quando De Maltè, presidente della... Presidente, no, direttore della... quattro anni. Beh, sì, aveva 4 anni, niente. Comunque, e lui diceva, Lamberto, che sono io, tu non sai cosa vuol dire passare, lui era direttore personale all'Eni, diventò direttore generale, prima direttore personale della RAI, poi direttore generale. Tu non sai cosa vuol dire passare da direttore personale che prendevo decisioni strategiche a direttore generale che non ne prendo più. Perché lui la chiamava la tirannia delle piccole decisioni, che in particolare RAI era un ambiente molto predisposto, ecco. Già a Torino, per dire, il Lingotto, se lui avesse avuto la stessa tirannia, cioè lì te li prendono a calci del di dietro, lì invece aveva file di postulanti di tutti i tipi, di tutti i colori politici, eccetera eccetera, aveva da occuparsi della starletta, aveva da occuparsi delle mocchette, aveva da occuparsi di mille cose. E lui diceva, quando io vedo che un problema ha una di quelle caratteristiche che sono elencate qui, io piglio, vado a Capalbio, dove si era fatto questa cara, medito e prendo finalmente la mia decisione strategica, dice, al limite chiamo te se non ce la faccio da solo. Ecco, questo se vuoi. Il concetto importante qui è questo, saper distinguere fra la decisione ordinaria e la decisione strategica. Certo. Quello che conta a livello manageriale, a livello centrale, è la decisione strategica. Tradotto dal linguaggio aziendale nel linguaggio politico, il problema è identificare sempre qual è il punto, il nodo del contendere. Qualsiasi problema ci si prospetterà sempre in forma piuttosto, neanche complessa, complicata. Complicata, giusto. Chiaro? Giustissimo. Ci si presenterà quello che caratterizza il politico che sa fare il suo mestiere è sfrondare di tutti gli aspetti occasionali, marginali, periferici, casuali, e andare al nodo del contendere. Lì va assunta la decisione strategica. Ed è quello che io ho cercato di spiegarvi quando vi ho parlato del rapporto, per esempio, fra criminalità e cosiddetta lex mercatoria. Al succo il discorso diventa, attenzione, perché la lex mercatoria è condizionata dalla presenza di soggetti per loro natura illegali, antigiuridici. E quindi che diritto può produrre un'assunzione di decisioni da parte di un soggetto per sua natura antigiuridico? Questo è il nodo del contendere. lì vanno assunte delle decisioni. Adesso andiamo avanti. No, ma è giustissimo, lo sposo al 100%. Allora, attenzione dove siamo. Ci siamo baloccati, chiedo scusa, sul concetto hai un obiettivo, hai uno scostamento, eh? A questo punto devi fare qualche cosa. Ma quel fare qualche cosa, cosa significa? Ecco, questa è la sintesi. Attenzione, quel fare qualche cosa tu lo fai perché pensi, anzi no, perché tutti pensano, perché chi ti ha affidato il compito pensa che ci sia una relazione causa ed effetto fra quello che fai e il risultato. Una relazione causa-effetto gestibile razionalmente. Allora, non significa che qualunque cosa fai, le cose cambieranno o resteranno le stesse. Perché se la pensasse così, il manager non avrebbe ragione d'essere, ma noi stessi avremmo ragione di prendere decisioni se comunque le cose non cambiano. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, significa che il mondo è deterministico almeno in una certa misura. Cioè, il contrario del determinismo è il casuale, no? Significa che noi assumiamo una visuale del mondo prevalentemente, ve lo dico così, deterministico e non casuale. Attenzione che il difetto della casualità ve lo troverete, anche perché è un buon argomento per distruggere i ragazzi, quelli che entrano nei sentieri di carriera, ve lo troverete fra i piedi tanto. Io nella mia vita professionale, quando dovevo fare il venditore, perché io avevo un'impresa, dovevamo lavorare, me lo sono sentito dire 100 volte, ah dottore, com'è bello quello che lei fa, però un modello lo può fare la Fiat c'ha i dati, io nel mio sistema non c'ho un cazzo, non c'ho i dati, ma tutto è casuale, tutto è pasticciato. E io dicevo, caro dottore, allora se le cose stanno così, alza il culo e esci, perché che cazzo stai a fare lì se il sistema è ingovernabile, se tutto è casuale, se tutto non si capisce, se di tutto non ci sono le informazioni. Soprattutto la questione informazioni è pesante, perché voi entrerete in un mondo che è passato dall'opposto, dal non avere informazioni come quando ho cominciato a lavorare io, all'averne troppe, come dicono alcuni anche della mia categoria, internet è stato nefasto, troppe informazioni. E c'è per esempio un signore con cui mi sono scontrato pubblicamente l'anno scorso a Yale, Taleb, che vi ho citato, che vi ho citato. Taleb, il teorico del cigno nero, che dice, l'ho pure messo, perché tra l'altro non è mica un cretino, fa i suoi interessi, ma non è un cretino, che dice, i cigni neri aumentano. No, un momento, spieghiamoci no, questa cosa. No, ma sì, forse stiamo divagando. No, il problema è questo, ve l'ho detto in una lezione. Noi partiamo dall'idea, conosciamo i cigni in quanto di pelame bianco. Quindi per noi il cigno è un animale che ha certe caratteristiche, fra cui un pelame bianco. Poi a un certo punto c'è l'eccezione, viene fuori il cigno nero. Allora che significa? Che non tutti i cigni sono bianchi e quindi io non posso più regolarmi sul fatto che tutti i cigni sono bianchi. Non è una regola, è venuta fuori l'eccezione appunto. Taleb a un certo punto dice, ma qui ormai il mondo è così disordinato che sono tutti cigni neri. Tratta il cigno nero come se fosse bianco e bianco come nero a questo punto, cioè lui si sta dando la zappa sui piedi, perché lui è uno statistico, no? Non voglio fare la lezione di statistica, non ho la lavagna. Comunque pensate che uno dei grandi punti centrali della statistica è la cosiddetta curva normale o curva di Gauss, che per inciso incidiamo, che è la curva campana, è fatta come una campana, così. Nel punto alto della campana sta la media di solito, stanno cioè le osservazioni più numerose, nei punti estremi sono le più rare, nel bene e nel male, se volete leggere così, ma diciamo in due fenomeni opposti. lui diceva i cigninieri che stanno proprio in uno degli estremi cominciano a apparire troppo, ma loro vuol dire che è cambiata la cura campana, ecco, ragiona in altro modo. Però quello che voglio sottolineare è che lui sostiene che il cambiamento deriva dal fatto che c'è un eccesso di informazione che ci sta addosso, per cui non capiamo più niente, il che ha qualche riscontro, cioè è una cosa su cui dobbiamo riflettere. Cioè, io trovo che per esempio uno dei problemi aziendali oggi grossi è proprio quello di sceverare l'inutile dall'utile, sceverare le cose che effettivamente sono giustificate, ecco, per usare un mio termine, rispetto a quelle informazioni che sono poco giustificate. Questo è certamente un grosso problema. Fammi fare una piccolo inciso. All'inizio del corso, ragazzi, io vi ho detto una cosa: non mi interessa insegnarvi la storia, mi interessa insegnarvi a pensare storicamente. E vi ho anche detto una cosa: che il problema della nostra epoca è un eccesso di informazioni rispetto alle strutture formative, per cui voi ricevete un flusso continuo e disordinato di informazioni. Vi ricordate che io vi feci un esempio, vi dissi: nella copia di un quotidiano c'è un numero di notizie pari a quello che raggiungeva una persona di media cultura nel Settecento in tutta la sua vita. Quindi noi abbiamo un eccesso di informazioni, certamente, ma eccesso rispetto a cosa? Rispetto alla nostra capacità di elaborarla. È arrivato il momento in cui dobbiamo porci il problema di una struttura formativa capace di manovrare una massa di informazioni molto maggiore del passato. Ecco perché da un lato io mi sono preoccupato di farvi una ed è il motivo per cui voi vi lamentate sempre del fatto: ma quale libro dobbiamo studiare? Io ho sempre detto che del manuale non me ne frega niente, perché a me interessa che voi impariate un metodo. Dall'altro lato è che il perché di questa lezione, che vi sta indicando un possibile strumento per gestire una massa di informazioni eccedente la capacità decisionale di un individuo. In fondo il succo è questo, esatto. E come sempre, mi spiace dirlo perché so che è più noioso, il problema è sempre metodologico, ecco, quando siamo seduti così come oggi. Oggi io spero di darvi una piccola spinta sul piano proprio metodologico, rafforzarvi alcuni elementi. Devo dire però, insisto, che pensare che siccome ho troppe informazioni sono in condizioni disagiate, come la pensa Nicolas Taleb, è proprio un po' da ciula, se permettete. Comunque. Allora, fermiamo però al punto sostanziale. Io devo pensare il mondo causa-effetto, perché è la ragion d'essere del fatto che sono qui, è la ragion d'essere del fatto che tutto il sistema si muove, ma è anche storicamente spiegato. Ecco, cioè, se noi analizziamo la storia, noi vediamo che ci sono state decisioni, io soprattutto guardo le imprese e ho visto decisioni buone e decisioni cattive. Le decisioni buone hanno cambiato in meglio le cose, quindi c'è una relazione causa-effetto fra questo tipo di cose qui. La paura è che il mondo stia diventando, mi accingo di nuovo a entrare in terreni che vorrei far vedere alla fine, così complesso che forse un giorno sarà meno governabile, ma certamente non lo sarà per eccesso di informazioni, lo sarà per eccesso di complessità e non di complicatezza, perché il termine complicato è molto. Ma se ci sono dei nessi fra quello che faccio e il risultato, non siamo più a livello delle attese, del Manitou che sta lassù, significa che il manager lavora in termini matematici, cioè nella testa c'ha una Y, un risultato, vedete che è minuscola, che è F, funzione, cioè attraverso qualche diavolo di regola è l'effetto di una X o più X che lui impiegherà. Allora cos'è la Y? La situazione di certe grandezze di un certo sistema economico. Gli X sono i fattori sotto il suo controllo, le cose che può maneggiare, il prezzo di un prodotto per esempio, oppure un nuovo prodotto, oppure l'organico del personale, eccetera eccetera. F è la legge, che se qualche volta si riesce a fare in termini umani, diciamo carta e matita, qualche volta richiede qualcosa di più. È la regola che parte dalla X e genera le Y. Oggi cercherò di darvi molte cose, se ci sono i tempi, se c'è tutto, sulle regole che portano dalle X alle Y. Attenzione che però qui manca ancora una cosa, poi ne parliamo. Sono riuscito a esservi chiaro? Perché di solito qui bisticcio. perché i manager si rifiutano di essere dei matematici. In realtà lo sono, magari sono dei pessimi matematici, ce ne tanti, e anche loro fanno quelle cose lì. Sono la visuale di un manager. No. Permettimi una precisazione, guardate che noi siamo abituati all'idea, associamo l'idea di manager all'idea di operatore economico, dirigente di un'azienda, eccetera. Ma in realtà, se ci fate caso, quello che fa un politico è la stessa cosa. Se voi pensate in termini non di manager economico, ma di manager politico, è la stessa cosa. Il manager economico ragionerà sui prezzi di vendita, sulla sui prodotti, il suo punto di riferimento è la redditività della il sequenza. Manager politico ragionerà per esempio sul se investire, come dicevamo nel caso di Bush, se usare l'esercito piuttosto che l'intelligence, gli aiuti umanitari o il blocco finanziario dell'avversario, ma il meccanismo è lo stesso, cioè stai comunque ragionando in termini di aspettative, risultato che vuoi conseguire, come l'incrocio fra la decisione che tu prenderai e la regola che in qualche modo regge il mondo, per cui a un certo input corrisponde un certo output, cioè a una certa decisione corrisponde un certo risultato. La F è l'astrazione concettuale che mi permette di scegliere una X piuttosto che un'altra per ottenere il risultato Y. È chiaro questo concetto? Nei casi migliori la F diventa la differenza fra il manager economico e il manager politico, sapete qual è? È semplicemente questa, ed è importante che lo capiate voi che siete studenti di scienze politiche. Il manager economico in genere è un ingegnere o un economista, quindi in qualche modo ha una percezione del problema in termini matematici, spesso poi lo contesta, però più o meno l'idea di dover fare dei conti ce l'ha. Il politico il più delle volte è un intellettuale di formazione umanista e spesso questo non lo percepisce, lo respinge. Lo respinge perché mentre la risorsa del manager economico è la logica di tipo matematico, la risorsa del politico, che ha il problema del consenso, ricordatevi questo, è piuttosto la retorica. Attenzione, perché questa è la vera biforcazione su cui dovete ragionare. Voi siete studenti di scienze politiche, io vorrei che alla fine di questo corso vi restasse in testa un'idea, che è quella del poter pensare in termini di razionalità matematica di questo genere. Mi sono spiegato? No, spero di no. Dimmi. Io ho capito il modello come funziona, solo che osservo. No, mi scusi, il modello non c'è niente. Non c'è, no, qua. Qui siamo alle premesse. Questa è la realtà, sì. È la realtà. Appunto per la realtà, a me sembra che ultimamente, forse, ripeto, forse è la mia impressione, che si tenda a lavorare spesso più sulle aspettative che sul risultato. Di fronte, forse proprio perché non si comprende la situazione, si tende a dire dobbiamo rivedere le aspettative, per, soprattutto in politica, e anche spesso forse nel mercato, questo ripeto è la mia impressione, si tende a dire non abbiamo raggiunto questo obiettivo perché ci sono vari motivi, dobbiamo rivedere le nostre stime. Cioè dovremmo rivedere l'obiettivo, lei dice. Esatto. Anziché cambiare le cose, cambio l'obiettivo. No, ma è un bel discorso, ma in certi casi è giustificato. Tra l'altro lei mi ha anticipato un po', ma c'era la fine. Il discorso può anche essere questo: nessuno delle X che io ho a disposizione può funzionare sulle Y, il che vuol dire che in sostanza le cose da solo non riesco a cambiare. A questo punto è chiaro che io devo cambiare l'Y grande, che niente fa. È chiaro anche però dei limiti in quello, per esempio nella redditività di imprese il limite è lo zero, ma per dirne una grande decisione, io l'ho condivisa, ringrazio la fortuna eccetera, quando è successo, quando Macchione ha preso in mano la Fiat. Sapete chi è Macchione? Sì, io parlo sempre come tutti le persone cose, ma in realtà so benissimo che noi siamo una piccola parte. Quando Macchione ha preso in mano la Fiat, ti ricordo il terribile momento che era, c'era ancora la Bucato, tra l'altro, no? La Bucato che incombeva su quelle robe lì. Lui ha detto per un anno, ragazzi, scordatevi la quota di mercato. dobbiamo recuperare finanza, dobbiamo recuperare da lì. La Fiat tagliò quelle che si vendevano, le macchine che vi ricordo erano venivano vendute come usato, ma non erano usate, erano semplicemente macchine invendute. Rinunciò, tagliò tutta la pubblicità possibile e immaginabile in tutto il mondo, eccetera, eccetera. La Fiat perse 8 punti di quota di mercato, 8 punti, però ragazzi l'ha risanata, ecco, un po' con l'aiuto dei signori della General Motors, ma l'ha risanata, ecco, questo è proprio il caso. Le aspettative qual erano? Non va bene, l'obiettivo cambia, signori, l'obiettivo è finanza, l'obiettivo, e tra l'altro l'ha quantificato perché Macchione quantifica, no? L'obiettivo è finanza, non pensate più. I commerciali ovviamente sono diventati pazzi, i produttori sono diventati pazzi, però il discorso non si poteva fare in modo diverso. Io mi ricordo, l'ho condiviso pur criticando sempre la Fiat perché sul mercato è sempre agito malissimo, però in quel momento non potevi fare diversamente, ecco. Vado avanti? Perché non è tutto, attenzione, perché il discorso è un po' più balordetto. Comunque intelligente molto la cosa che ha detto, perché per l'impresa di sicuro meriterebbe un discorso estremamente lungo. Come si formano gli obiettivi? Perché la disgrazia, a parte quel concetto di valore che è proprio un errore, ma anche chi ha veduto un minimo di soggettività nella formulazione delle aspettative non se la toglie proprio mai, assolutamente mai. Il che può essere nefasto perché tu vai in conflitto e corri il rischio di usare malamente i tuoi fattori sotto controllo perché cerchi delle cose non ottenibili, no? E quindi stabilire gli obiettivi dovrebbe essere il risultato veramente di grosse riflessioni. Purtroppo non capiamo più, questa è una delle cose. Una volta c'era il padrone, come dice lui, io non l'ho mai conosciuto, ma c'era il padrone che dice: ragazzi, io a fine anno voglio questo, eccetera, eccetera. Adesso ci sono questi consigli di amministrazione che non capiscono niente, quindi il risultato è che poi si riuniscono una volta all'anno, sono l'espressione più di partiti, ecco, che di forze vere e proprie, non sono neanche molto spesso molto preparati, vengono messi lì per dargli un posto. Ecco, il discorso che finisce che il manager supremo, però uno che non è la proprietà, se lo dà da solo. E quel darselo da solo espone molti problemi, sia di carattere etico, eccetera, eccetera, che tutti sapete, peraltro. Ecco. Allora, ecco qui, responsabilità e potere. Quindi, attenzione, solo un punto, poi lasciamo perdere la banca. Il manager ha una responsabilità, minimizzare gli scostamenti fra l'Y piccolo e l'Y grande. In cambio, hai delle responsabilità, hai un potere, hai un insieme di variabili X, hai dei fattori sotto controllo che puoi impiegare. Attenzione che anche nella proporzionalità fra le responsabilità e il potere ci sarebbe moltissimo da discutere, perché assisti spesso a situazioni in cui hai tanta responsabilità e pochissimo potere, ma hai anche viceversa in cui hai molto potere e poca responsabilità. Purtroppo molte imprese, anche non piccole, hanno spesso questa situazione in cui il potere è molto superiore alla responsabilità. I giornali sono pieni, dice: è andata così, c'era la crisi, ma che cazzo, con tutti i mezzi che tu hai a disposizione, porco Giuda, potevi fare, invece no, c'era la crisi e poi è tutto. Questo è proprio la mancanza di una sanzione, eccetera, ci sono solo i premi, le sanzioni non ci sono più. Cioè, una volta ti buttano fuori a calci di dietro, l'azienda in cui io sono nato, L'Oreal, facevi un errore di questo genere, il buon Cantone, che è stato un grandissimo manager, due minuti dopo avevi il libretto di lavoro in corso Garibaldi a Torino e te lo andavi a prendere, e tu filare. Ecco, brevissimo riassunto. Ripetibilità di sistema materiale, cioè in sostanza vi rinnovo il causa effetto, non lo dimenticate mai. Un territorio, il manager ha di fronte uno spazio, no? Che sono l'insieme delle variabili X, perché parlando nella foga vi continuo a dire come se fosse una, in realtà le variabili Y, cioè i risultati dell'impresa sono numerosi, se no l'impresa non sarebbe un modello di divisione del lavoro, ecco. Hai un complesso di obiettivi da raggiungere, gli Y grandi, gli Y maiuscoli, quindi di nuovo non uno, tanti, anche se ne hai sempre uno supremo, nell'azienda c'è una gerarchia che più o meno si regge, hai un potere, delle X. Lasciamo perdere questo, che se qualcuno vuole... Ma attenzione, è finita così la storia della presa di decisione, no? Ci sono anche delle cose fuori del tuo controllo che ti possono rompere le scatoline. In sostanza, quando tu decidi, devi preoccuparti di un complesso di altri fattori su cui tu non puoi intervenire, tra l'altro spesso perché c'è la legge che ti impedisce di farlo, ma che però interagiscono con la tua presa di decisione a produrre dei risultati. Hai dei microfattori, per esempio, quando tu decidi, tu devi sempre tenere presente cosa fanno i tuoi concorrenti. Se tu sei a livello di mercato, devi ragionare su quello che fanno i tuoi concorrenti. Raccontavo proprio stamattina ad Aldo il caso di un signore che ha preso da poco in mano la più grande azienda di distribuzione italiana e dice, vi ricordo l'anno scorso è stata una brutta crisi, una brutta botta, dice: come mai abbiamo abbassato i prezzi del 14 qualche cosa per cento anziché guadagnare quote di mercato, le abbiamo perse. E manco farlo apposta, erano usciti prima i dati e gli abbiamo fatto vedere che i suoi concorrenti li avevano abbassati di oltre il 20%. Quindi in realtà il tuo prezzo era aumentato l'anno scorso, non si era abbassato, perché chi va a comprare confronta, vede le due cose, soprattutto nella grande distribuzione che i prezzi per definizione li hai lì davanti. E allora sei un cretino se dici e se ti metti l'idea: ho abbassato i prezzi, non è servito un cacchio, la domanda non è aumentata, la quota di mercato è addirittura diminuita. Ma cretino, vai a vedere quello che hanno fatto gli altri. Ecco, quindi quando tu decidi, e questo tocca a tutti i manager, non può decidere il direttore del personale se ignora che c'è un contratto di lavoro, ci sono dei sindacati e quelle robe lì, tienlo presente. Non può decidere un direttore di produzione che ignora la tecnologia, l'evoluzione tecnologica e tutte quelle robine lì. Tra l'altro, sempre in forma meno specialistica, torno sul discorso suo, io mi ricordo gli ingegneri ai miei tempi si occupavano solo di macchine, adesso si devono anche occupare di persone, di fenomeni organizzativi, di dati in termini di flussi di materie prime, eccetera eccetera eccetera. E infatti ci sono classi anche di macrofattori che incidono con te. Un conto che tu ragioni in un momento di espansione, no? Un conto che tu ragioni in un momento di depressione, le due condizioni sono diverse. Impatate, se no non arriviamo poi alle cose belle. La Y non dipende solo dalle X, dipende anche da delle Z, che sono due classi di variabili che sono fuori del tuo controllo, fattori fuori controllo, X sotto controllo e Z fuori controllo. Quelle interagiscono fra di loro e interagiscono è già un brutto discorso che tu devi fare quando prendi delle decisioni. Come interagiscono? Ci sono varie modalità, additiva, sottrattiva, rapporti e moltiplicatori, eccetera, eccetera, eccetera. L'equazione rimane buona, ma ci prendiamo una classe nuova. E credo che questo avvenga anche a livello politico, no? Beh, di più, perché a livello politico per definizione c'è un'area Z estesa che è l'area di sicurezza, che può essere interna o esterna. Quindi anche lì quello che fa il politico lo deve fare sempre in riferimento a quello che fa la concorrenza e l'avversario, perché ovviamente gli cambiano le condizioni di scenario. Ecco, una delle cose, tanto per darvi un tocco di futuro, una delle cose su cui si sta ragionando che te ti piacerebbe, e magari poi ci scriviamo qualcosa sul tuo sito, è il discorso che l'area dei macrofattori che intervengono alla presidenza l'ha fatto tra l'altro un interessante studioso cinese, che dice che l'area dei macrofattori che intervengono nella presa di decisione è sempre più vasta e sta attraversando trasversalmente quasi tutto. In sostanza, se preferite, questo tra l'altro è un discorso che ci ricade molto sul piano tecnico per certe cose di cui non riusciremo mai a parlare qui per motivi di tempo, è quel discorso che voi avete sentito sicuramente Teoria del caos, una farfalla a Pechino ha battuto le ali e un tifone è scoppiato a Miami, ecco, per dirne una. Il discorso cioè che il sistema non ha confini, tutto, che è un discorso terribile, perché questo vuol dire mondo ingovernabile di sicuro, su cui ci sono belle obiezioni da fare, che però si è rinfocolato ulteriormente, perché questi cinesi porto giù ragionano, e tra l'altro loro per esempio il confine fra ciò che è pubblico e ciò che è privato, fra ciò che è economia e ciò che è politico, se ne sbattono largamente, invadono il campo. devo dire più economia che politica, però mettono insieme le due cose in modo che cui noi non siamo capaci, no? Io se mi mettessi in barra di politica verrei zittito, quello lì invece no, ti vede lezione. Allora, solo due cosette sulla presa di decisione. Attenzione, quando decidete voi siete sempre sottoposti a ritardi, in inglese delay. Il ritardo è tipico della presa di decisione, noi lo sottovalutiamo, noi pensiamo sempre ho deciso questo e il giorno dopo succede qualcosa, ho fatto la campagna pubblicitaria e aumentano le vendite, e no, c'è un delay, c'è un ritardo in tutte queste cose. Ma tra l'altro spesso il ritardo dipende da noi, per esempio ci sono ritardi burocratici che imperversano, soprattutto nel tuo mondo, ma ancora nelle aziende, sono pesanti. Io ho deciso, me ne vado, torno dopo tre mesi, la decisione in realtà non è ancora stata presa, è ancora lì che gira nelle carte delle aziende tipiche. L'altro problema grosso è come vanno le cose nei fattori fuori del tuo controllo. Se volete, la sola presenza dei ritardi fa sì che quando tu stimi il fattore sotto controllo, magari le cose sono già cambiate e tu non te ne sei accorto. Le dinamiche dei fattori sotto controllo è un problema grosso, è un problema crescente, è un problema sempre urgente. Perché? Perché decidere si decide per il futuro. Non ha nessun senso pensare alla decisione come rivolta al presente o addirittura al passato. Quando io decido prendo un'opzione sul futuro. Vi voglio fare un esempio. La riforma universitaria come è stata pensata alcuni anni fa, quando abbiamo deciso di scindere i vecchi corsi di laurea e di fare gli attuali 3.700-3.800 corsi di laurea, di cui voi siete uno degli esempi. Scienze politiche prima aveva un unico corso di laurea con uno sfrangiamento al terzo anno, all'epoca era di 4 anni scienze politiche, su 5 indirizzi, un biennio uguale per tutti e poi 5 indirizzi di un unico corso di laurea. Noi invece abbiamo cambiato questa cosa. Perché? L'idea è stata, noi dobbiamo produrre un laureato che abbia un livello di un ritaglio professionale a misura di una figura professionale richiesta dal mercato. Piccolo problema. La decisione legislativa è per sua natura una decisione lenta, vi ricordate che l'ho detto questo sulla Lex Mercatoria, perché fra quando tu discuti, assumi passi dal Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, viene approvata dal CUN, passa al Ministero, Gazzetta Ufficiale oppure eccetera, mediamente passano 5 anni. In quei 5 anni il mercato è cambiato e quella figura professionale è in gran parte diventata obsoleta. Ecco come, ad esempio, questo è un classico effetto controintuitivo di una decisione sbagliata perché non tiene presente i fattori Z. Noi siamo in un mondo che cambia molto velocemente, molto più velocemente del passato, questo ve l'ho detto ripetutamente a proposito dell'ipercapitalismo finanziario. In una situazione del genere, ovviamente, una scelta troppo rigida sarà una scelta controproducente, molto ed estremamente preferibile una scelta flessibile, cioè ad esempio una professionalità non molto rifinita dal punto di vista specialistico professionale, ma altamente fungibile, una forte formazione base che con opportuni aggiustamenti di breve periodo consenta al lavoratore di acquisire l'abilità che gli viene richiesta in quel momento sul mercato. Un'eccessiva rigidità per cui noi produciamo il problema, l'esperto dei problemi idraulici del subappennino Dauno, se poi non ci sono più posti di lavoro per gli ingegneri idraulici del subappennino Dauno, quello non fa più niente nella sua vita. Mi sono spiegato, questo è uno degli aspetti importanti di una società caratterizzata da un elevato grado di complessità. Allora, è chiaro, non ci sto molto perché vi è già emerso, è chiaro che la linfa che c'è sotto quello che ci siamo detti, le Y, le X, le Z, eccetera, eccetera, è un'istanza di quantificazione. Allora, ne abbiamo parlato, quindi credo che ci possa stare sopra, è emerso dal suo discorso, una delle cose più negative, più nefaste, è proprio quella di ragionare in termini qualitativi. Bisogna per forza di cose accettare che se io voglio intervenire sul mondo per cambiarlo, io devo quantificarlo. Magari poi non è così, eh. No, spieghiamoglielo meglio sto punto di vista. Io prima, a un certo punto, vedendo le slide prima, mi sono permesso di dire una cosa, di dire, ah, ma allora l'obiettivo è la conquista di quote di mercato. Sono stato subito ripreso da Umberto, che mi ha detto, se lo dici a lezione dico che stai dicendo una cavolata. Perché il problema non è quello di un obiettivo così indeterminato, ma quello della quantificazione. Certo. E perché? Questo ve lo spiega lui. Sì, sì, sì, certo. Spiegagli perché gli interessa direttamente in quanto futuri giovani manager. Sì, con futuri giovani manager questa sarà una condizione di cui soffrirete molto. Ecco. Quando risponderete al telefono. E beh, è brutta, eh. Però pensate una cosa. Allora, quando mi sono laureato io, matematica, mia mamma si è opposta fino all'ultimo, proprio quasi è arrivata sulla soglia dell'università a dire quel disgraziato vuole passare una vita da professore senza soldi, eccetera, eccetera. Mia mamma è rimasta vedova, che io avevo 10 anni, sono il figlio maggiore, no? E poveretta. Poi, quando mi sono laureato, abbiamo ricevuto, e credo che fosse niente in confronto a quello che ricevevano gli ingegneri del Politecnico di Torino, 137 lettere mai richieste di per favore si presenti a un colloquio. Io ero a Torino, no? Erano molte della Fiat, ma c'era tutto. Cioè questo rispetto a voi è un po' cambiatuccio. Ecco, la cosa, infatti mia mamma, povera donna, è resasi conto delle cose, ne ha tenute in un cassetto per anni. In un certo senso no, perché loro adesso fanno 137 lettere per essere ricevuti e mandano... È l'inverso, ecco. Sì, però signori, per esempio vi assicuro, e chiedo scusa alle signorine, però su altri fronti, io ho vissuto in un mondo, noi abbiamo vissuto in un mondo di quelli, sul ciulare per dirne una, ragazzi, noi siamo stati generati dei mostri, siamo tutti pieni di complessi, tutte le cose possibili e immaginabili abbiamo, quindi accettate, i complessi sul lavoro no, ti prendevano a braccia aperte. Io al terzo colloquio, tra l'altro, di nuovo scontentando quella povera donna di mia madre, al terzo colloquio c'era sto Real e a me interessava un'esperienza all'estero, no? E sono andato, mia mamma, 20 lettere via, ti hai ricevuto, ma che cacchio vai a fare? È stata la mia fortuna. Io dopo una settimana, allora i laureati erano 4 gatti ovviamente, ero nella stanza dei bottoni e c'era un manager che aveva insegnato il mestiere, che si chiamava Mortodani, lui Cantone, che aveva insegnato il mestiere tra le altre cose ai due fratelli Agnelli, in un caso ha avuto successo, in realtà un po' meno, ma però gli aveva insegnato il mestiere. Lui Cantone non è conosciuto a nessuno, però ha cambiato il modo di decidere. Io sono stato in Oreal 3 anni. L'idea, loro lo sapevano, era siamo una cucina, noi prepariamo i talenti, si andava a Parigi, c'era una scuola, il budget era una cosa di, che in Fiat non sapevano ancora tanto bene cosa, ma il marketing, l'uso della pubblicità, L'Oreal è stata la prima in Italia che ha fatto il famoso carosello, il primo carosello era un carosello Oreal, no? E che tra l'altro è la prima nel mondo per prodotti per capelli, no? Ormai per prodotti per le stringenti. Comunque sia, quindi per quello mia mamma era un po' sospettosa, dice cosa vuoi fare? Vendono shampoo, no? Quelle cose lì, ecco, solo che noi avevamo una macchina di 1 milione di shampoo al giorno. Come? Andiamo al... No, ma per dirvi no, ma è anche perché mi dipingi sempre la situazione terribile, hanno anche delle cose più positive di quelle che abbiamo avuto. Consolati. Noi. Sei un pessimista della Madonna proprio. Comunque allora, entrare nella stanza dei bottoni avveniva in 30 anni, ecco, io ci sono entrato 10 giorni dopo. Mi sono arrivato il 22 giugno, il 7 luglio io ero seduto alla prima riunione in Oreal, non era da poco. Aspetta. Guarda, saltiamo e andiamo avanti perché ci sono adesso alcune cose, le dico, su cui fateci una riflessione, leggete due cose quando vi tocca. Per esempio, una delle cose che si capiscono male è il concetto di variabile discreta e continua. Sono entrato nel secondo mondo, no? Abbiamo parlato di presa di decisione, abbiamo visto che c'è il causa-effetto sotto. Adesso però vediamo qual è quella unità che si chiama variabile. Vale a dire un alcunché spesso immateriale, ma qualche volta specchio di cose molto concrete, molto solide, che si misura, che stanno nel mondo, che vediamo, tocchiamo, gustiamo, eccetera, eccetera, che ha una caratteristica, è quantificabile. Se è quantificabile devi quantificarla, ecco. Ma nelle variabili ci sono cose tipo il clima interno, tipo la sicurezza, che sono quantificabili e le puoi quantificare in qualche modo. Parlando di variabili, però, ci sono tante cose da vedere. C'è il concetto di costante, per esempio, perché la variabile per definizione varia, cioè assume valori diversi. Però ci sono dei casi in cui ti conviene trattare dei fenomeni come costante, come assumesse un solo valore. Ma gli aspetti più noiosetti delle variabili sono, per esempio, il carattere discreto o continuo. Quali sono le variabili discrete? Le variabili discrete, che sono forse la maggioranza nel mondo, sono quelle caratterizzate da un numero di valori finito, non infinito in sostanza. Per esempio, se volete, l'organico di un'azienda è una variabile discreta, perché è fatto di un certo numero di persone. Molto spesso, però, si trattano le variabili discrete, in particolare nel nostro mestiere è quasi il caso di farlo, come variabili, perché sennò ci sono degli errori di matematica, errori di approssimazione, come variabili continue. Quali sono le variabili continue? L'inverso, quelle che fra due soglie, minima e massima, variano continuamente, cioè il numero di valori è infinito. Allora, la quota di mercato variabile continua, anche in natura, che varia fra 0 e 1, 0 significa che non ti caga nessuno, 1 significa che sei il monopolista di quel mercato, vengono a te. La quota di mercato è la frazione di domanda che viene a te, il complemento a 1 è la frazione di domanda che vai ai tuoi concorrenti. Scusate, ogni tanto mi dimentico di non essere in bocconi, fermatemi, chiamatemi all'ordine, non c'è nessun problema. Immaginavo che non tutti di voi sanno cos'è la quota di mercato. Se io vado in bocconi la spiego, mi fanno le pernacchie, ecco. Allora scusatemi, io sono un po' in quella condizione, ci ho insegnato 25 anni. Allora, la quota di mercato è una variabile continua, ha due soglie, 0, minima, massima, 1. I valori detto per definizione sono infiniti. Lo 0, 1, questo spazio infinito, però di 1, è chiamato dominio. Le variabili discrete sono quelle che hanno poche espressioni. Vi faccio il caso più banale che si fa sempre a matematica, il lancio di un dado. Quanti valori ha un dado? 6. Bravo, accidenti, ci sia pure. Ma io ho studiato. Ha 6 valori possibili, non ne ha 6, 5,4, 3,2, eccetera, eccetera. Purtroppo, ma ve lo dico, non mi tocca, in matematica è spesso necessario continuizzare le variabili discrete, perché il calcolo così a salti si fa male, vi assicuro, molte equazioni vengono male, soprattutto in presenza. Certe volte non lo puoi fare e c'è tutto un modo di trattare le variabili discrete. Se voi avete quella fortuna che vi auguro tanto, perché ci vuole anche quella, ma soprattutto quelle capacità di cui non dubito, e diventerete top managers o anche già middle manager, vi assicuro che davanti a voi ci saranno più variabili continue che discrete. Non sarebbe... E se voi ragionerete in termini discreti, avreste gli stessi rischi che hanno i matematici. Pensate il mondo in termini continui. Adesso l'ho fatto, lo volevo saltare. Allora, allora, un punto importante, qualcuno di voi farà economia o l'ha già fatta? La stanno facendo. Allora, per l'economia la caratteristica delle variabili è l'aleatorietà, come dicono gli economisti. Ve la dico da matematico, cioè il carattere probabilistico delle variabili di cui si occupa un manager. Attenzione però, è importante. Se voi assumete, come Nicolas Taleb, che quel carattere probabilistico sia il carattere prevalente, cadiamo nell'equivoco di prima, cioè un mondo che è ingovernabile, perché se il caso domina il mondo, il mondo è dominato appunto dal caso e non da voi, ecco, in sostanza. Allora, gli economisti usano una biforcazione importante. Che il concetto no ho saltato forse. Vabbè, diciamo, ecco, allora, di sicuro vi rendiamo atto, nelle relazioni causa-effetto c'è un fattore casuale, ma questo tra l'altro non è nuovo neanche nel campo della fisica, no? La legge della gravitazione universale è una legge di gravitazione deterministica tipica della fisica, tranquillamente generalizzabile a tutti gli universi, però che se voi la misurate nella realtà con un arnese abbastanza preciso, in realtà ci sono diverse forze che incidono sulla caduta di un qualunque grado, per cui per esempio l'attrito, no? Tanto che in certi casi sembra sfidare la legge di gravità. Quando voi lasciate cadere una piuma, la piuma non cade come una palla di ferro, no? come ha fatto il buon Galileo. Quindi in realtà altri fattori incidono sul fenomeno. Quando questi fattori, attenzione, vi sto dando una decisione mia personale o condivisa da molti matematici ma da pochi economisti, la mia definizione è che il fattore caso è in realtà la nostra sintesi, una bella invenzione matematica del signor Biagio Pascal, una sintesi di fattori numerosi che non abbiamo convenienza o non siamo in grado di dominare o di calcolare. Questo tra l'altro in fisica, nella teoria dei gas, è stato ripetutamente provato. Quindi è caso, il caso è figlio della nostra ignoranza in senso molto lato o della non convenienza di andare a esaminare dei fattori che incidono poco, ma attenzione quando dico incidono poco, devono incidere poco. Perché se sono fattori che incidono tanto vai a cercare, non attribuirli al caso, perché in questo caso ti creerai soltanto dei problemi. Sono riuscito a essere chiaro, perché stiamo andando in un discorso terribile, ragazzi. Ecco, tutto lì. Caso e necessità. Ecco, per darvi un primo esempio, no? Un primo esempio vero, tra l'altro vero, e anche relativamente fresco, un'indagine. Il prodotto era una commodity. Quali sono? Sono tutti quei prodotti in cui la qualità conta poco, è uguale per tutti. Uno per tutti è il grano, per esempio, ha tre o quattro classi, tre o quattro qualità, ma all'interno di quello tu non sai se li ha fatti il Sciobrambilla oppure la American Corns, eccetera, eccetera. No, sono tutti il grano di quel tipo che si chiama A2248, è uguale in tutto il mondo. Quindi qual è il fattore di competizione fra quelli che ci sono sul mercato, che sono 5 o 6, ma ci sono, e tra l'altro sono aziende importanti e pesanti? È il prezzo. Tu competi sul prezzo, massimizzando. Ecco questo, gli italiani sono molto forti in questo campo e hanno goduto negli ultimi 2 anni del piacere, la loro disperazione, dell'euro molto forte, perché l'euro forte gli ha rotto veramente tanto le scatole a questi qua. Questi gruppi stanno collaborando tutti per metterci un po' di inflazione dentro. E allora la relazione è fra il prezzo relativo, vi ricordo X e Y, no? Prezzo nostro fratto prezzo della concorrenza è prezzo relativo, nel caso specifico era il prezzo medio dei concorrenti. Come incide sulla competitività? Abbiamo fatto un test, quello che si chiama un market test, no? Cioè in tanti mercati diversi del mondo abbiamo venduto quei prodotti per una durata non molto lunga, se ben ricordo un mese e mezzo, a prezzi differenziati in confronto dei concorrenti che erano presenti sullo stesso territorio. E lì vedete, anche se li ho messi a valori rotondi, la colonna di sinistra c'è il prezzo relativo 0,75, 0,80, 0,75, 0,90, 0,95 e 1, 1 uguale alla concorrenza, no? I due valori della divisione sono uguali. Se è lo 0 il mio prezzo era inferiore, se è superiore a 1 il mio prezzo era superiore. La curva risultante è una tipica esponenziale, vedete che cade giù così, che si ferma per motivi di limiti, no? Dell'osservazione che già abbiamo fatto, ed è la curva vera, è quella verde. Noi l'abbiamo depurata del fattore del caso e è venuta fuori quella bianca. Vedete che la differenza è molto piccola, la casualità incide poco. Questo è un caso tipico in cui ce ne possiamo fregare, perché lì la casualità esprime il fatto che sul mercato, che ne so, della Cina non l'abbiamo fatta, ma sul mercato del Vietnam c'era un venditore particolarmente bravo o magari manicato che vendeva più di noi, ecco. Ma il fattore prezzo complessivamente si muove secondo la curva bianca, quelli sono disturbi. È chiaro che se quei disturbi, io più avanti ho un caso, ma ve lo salto perché sennò ci stiamo fino a luna, e che se i disturbi sono un po' più alti, a quel punto lì il caso sarebbe bene cominciare a pensare quali sono le variabili che entrano dentro questo cavolo di caso, ecco. Qui noi eravamo avvantaggiati, se già fossimo se fossimo in un mercato di beni largo consumo, di specialty, allora a questo punto il prezzo è sicuramente un elemento che incide sulla competitività. La competitività è la quota di mercato, ecco, detta in... Comunque questa è la percentuale della componente casuale. Cosa, 7 qualcosa per cento. 7%, quindi... Per cui lo puoi ignorare, ecco. Diciamo che puoi scoprire che anziché fare un prezzo del 5% sotto i concorrenti era meglio se facevi 4, guadagnavi un po' più di soldi e la quota era uguale. Però ragazzi miei, forse era meglio anche se trovavi un venditore furbo e eccezionale, oppure se dare una busta a qualcuno e quelle cose lì. Quindi tutto sommato qui siamo nell'ambito in cui il caso è veramente caso, nel senso la nostra ignoranza non è punita. Ma quando questo valore aumenta, siccome io sono fermamente convinto, attenzione, è indimostrato, è quello che sto dicendo, che il caso è frutto della nostra ignoranza oppure della mancanza di convenienza, allora datevi da fare, perché rischiate brutto a quel punto di prendere un esponenziale per una logistica e così via, ecco. Cioè a fare degli errori clamorosi, a buttare via dei soldi oppure a creare dei catafasci imprenditoriali. E di questo si parla più avanti. Ecco, comunque sia, diciamo, adesso torno a quel punto che prima ho fatto confusamente perché non mi avevano aiutato le slide. Gli economisti sono usi a distinguere le variabili. Allora, chiedo scusa, però vi resti nella testa che il caso c'è, di sicuro. Nessuno lo dice, ma deve essere basso. Noi non possiamo accettare casi alti, se no il mondo non lo governiamo più. Gli economisti usano a distinguere una condizione di relazione causa-effetto, la componente casuale, la usano a distinguere in rischio e di incertezza. Il rischio significa che le probabilità che quel fenomeno si verifichi sono note. Il caso precedente ex post, perché ad esempio non lo sapevamo, noi sappiamo quanto incide il fattore casuale nella vendita di commodity relativamente al prezzo relativo. Dove poi lo sappiamo, magari fra 3 anni rifacciamo queste indagini per vedere se qualcosa è cambiato, ma quelle cose lì durano nel tempo abbastanza. La condizione di incertezza è quella in cui sai che c'è il caso ma non sai quanto pesa in termini probabilistici. Può essere l'1% e allora te ne freghi altamente, ma può essere 50, 60, 70 e allora dovresti darti da fare. Ecco, io dico che il maggior numero di informazioni ci ha consentito di lavorare molto sulla condizione di incertezza e trasformarla in condizioni di rischio. Dico altrettanto che però non è affatto vero che tutte le variabili sono classificabili nella classe di rischio. Abbiamo ancora molte variabili incerte. Noto che in mondi fuori dal nostro, per esempio quello politico, la condizione di incertezza è prevalente, no? Senza alcun dubbio. Anche per un motivo che io vi ho spiegato, molti dei dati che sarebbe necessario conoscere per valutare il rischio sono tenuti volontariamente nascosti. C'è una dimensione che è quella del segreto, la dimensione occulta, che sottrae informazioni necessarie alla valutazione del rischio e quindi per questo la scelta avviene in regime di incertezza. Cioè, se l'Iran ha già fatto la bomba atomica o no, noi non lo sappiamo, non ce lo vengono a dire. Quanto gli manca a farlo, possiamo forse stimarlo. Però questa è una condizione anche nostra. Cioè, io non so in questo momento, io ho finito 10 giorni fa l'analisi sul piano Fiat del prossimo quinquennio. Io non so mica cosa farà. Oddio, non è poi neanche tanto vero quello che vi dico, però anche tu sei nella mia condizione. Io non so mica se la Volkswagen mi esce con con chissà che cosa, non so mica se la Toyota reagisce alla situazione, che per esempio per noi è stata una novità, certo. No? Mi ricordo il guaio anche Toyota. Le aziende hanno un segreto che oppongono, segreto industriale, il segreto. Quindi con tutto ciò tu puoi lavorare per le condizioni di incertezza, per esempio conoscendo gli investimenti, rendi probabilistiche molte cose. Certamente per esempio il mercato dell'auto è molto balordo in questo momento, io spero di chiudere la mia esperienza perché tra poco voglio piantarla lì. Ma entro fine anno fai finalmente il modello di quale sarà l'auto del futuro, perché non si sa ancora. Elettrica mista, come si chiama, biofluidi, non si sa. Va bene, questo è sempre sul fattore caso, è un bel caso, lo amplio e poi te lo do, chi è amatore di quelle cose, perché ci sono dei momenti in cui il caso ti disturba. Riassunto. La decisione, l'abbiamo visto prima in modo fuggevole, ve la ridico meglio. Nel fatto che la decisione è un rapporto causa-effetto, nel fatto che io devo trattare non solo le mie X ma le Z, cioè i concorrenti, l'ambiente, il mercato, tutte quelle robine lì, nel fatto che io lavoro su delle variabili in una relazione causa-effetto, io ho sempre una condizione, altrimenti è una pseudo decisione, non ve lo fate vedere, ve lo saltate tutte perché è un discorso lungo. Ogni decisione assume un trade-off costi-benefici, ve lo dico in termini aziendalistici, cioè una decisione che porta solo bene a quell'obiettivo o porta solo male a quell'obiettivo è una pseudo decisione. Tu manager decidi sempre sapendo che hai benefici, spesso economici, quindi quantificati in moneta, e costi. Costi nel senso lato oppure anch'essi costi monetari, quantificabili in moneta. Una decisione in senso proprio è benefici e costi. Il primo compito del manager è fare il trade-off, costi-benefici, costi-benefici. Quante volte in azienda si dice, ah, ha deciso quello perché portava questo, sì, ma qual è il costo vero? Perché ci sono costi diretti, costi indiretti, costi palesi, costi occulti e quanto. Portatevi a casa il concetto di trade-off costi-benefici, grossa scoperta della consulenza aziendale americana Boston Consulting Group del 1972. Il concetto di sistema. Allora, pluralità di fattori, pluralità di effetti tra cui sicuramente benefici e sicuramente costi, se preferite ricavi e costi, se preferite ancora vantaggi e svantaggi. Una decisione ricade almeno in due modi sul tuo sistema. Adesso però vediamo come ricade, perché ricade in molti più modi di solito, specialmente quando, come nel caso specifico, parliamo di decisione strategica. Vi richiamo in causa, perché il fatto che ci complica la vita è proprio questo dannato concetto di sistema. Tu ne hai già parlato. Vado avanti veloce o vado avanti lento? No, questa frase va avanti veloce, perché tanto poi dobbiamo arrivare a un minimo di chiacchierata con loro. Siete a posto sul concetto di sistema? Magari. Cosa distingue? Allora, un sistema, allora lo rifaccio, senti, perché è importante, è meglio, anche se non finiamo oggi, non è grave, ma che i concetti si fissino. Per favore, datemi sto cacchio di feedback, si fissano o no? Cioè, riesco a essere chiaro, non è mica colpa vostra. Va bene. Allora, che cos'è un sistema? Un insieme di variabili legate tra di loro da rapporti causa-effetto, tanto che tutte le variabili del sistema sono nel contempo causa ed effetto. In termini paradossali si può dire, in un sistema, ma nel sistema, nel sistema la variabile è causa ed effetto di se stessa. Pensate al passaggio culturale immenso che questo concetto della fine degli anni 50, anche se von Bertalanffy aveva scritto prima, ma ha scritto un volume così di quelli terribili da leggere, era un matematico, pensate come ha cambiato il mondo e lo sta cambiando tuttora pesantemente. Vi ricordo che noi siamo figli, gli ultimi, io vedrei, a parte Kant eccetera, l'idealismo, Dio ci aiuti per quelli danni che ci hanno fatto, però siamo figli di Cartesio, Cartesio il problema lo spezza finché lo riduce in briciole, e sulla briciola trova la soluzione. Questo in un sistema è drammaticamente erroneo, eppure noi viviamo ancora nella razionalità cartesiana, assolutamente. In mezzo, che poi è quella aristotelica, se volete, poi non c'è mica tanto da fare dei salti. Ecco, è il ragionamento che in sostanza causa e effetto sono unidirezionali, e quello che causa è causa, e quello che effetto è effetto. Allora, se voi guardate il cesso, una cosa proprio molto brutta, molto triviale. Questo ve l'ho spiegato, ragazzi, quando ho parlato, a proposito della legge della complessità, dell'effetto di interazione, di interagenza, il processo continuo. Vi ho fatto l'esempio del termostato, che è appunto un processo continuo nel quale l'effetto di retroazione regola il meccanismo complessivo. Quindi in qualche modo le parti del sistema sono... Guardiamo questo qua. Questo è più semplice. È triviale, quanto volete, però il livello, questo tra l'altro non esiste più, però è andato avanti fino a pochi anni fa, no? Il livello della tazza del bagno è ovviamente mosso da due cose, un rubinetto che rientra e la vostra mano che tira una catenella, schiaccia un bottone che toglie, no? Ma siccome dentro c'è un arnese che si lega a un galleggiante, no? Il quale ha dentro di sé, per galleggiamento, oggi magari è un po' più sofisticata la cosa, perché il galleggiamento andava in crisi, un livello obiettivo, vi ricordo, una Y grande, no? A cui tendere, avveniva il fatto che questo sistema, le tre variabili gialle, sono una in relazione con l'altra, tanto di causa quanto di effetto, perché il livello genera lo svuotamento, ma lo svuotamento interviene sul livello dell'acqua, lo cambia, quindi causa, effetto, effetto. Il livello muove il riempimento, quindi il riempimento in cui c'è questo paragone viene a definire un nuovo livello del sistema. Causa ed effetto non si vedono solo nel modo in cui guardiamo le cose. Ecco, questo è un sistema triviale quanto volete, ma è quello che si usa sempre in questo tipo di esempi. Ne ho molti altri, via via più complicati, uso volutamente questo termine, nel senso che in realtà questo è il prototipo di tante cose. Sottolineo solo, perché non c'è tempo di fare la storia, io ce l'ho un po' alla fine, qualcuno se vorrà se la legge, il cambiamento culturale drammatico che il concetto di sistema, diciamo, io ho detto male il dopoguerra, però in realtà il primo è stato Norbert Wiener 1936, se ben ricordo, col concetto di cibernetica e quelle balle là, che però si stanno realizzando solo oggi, allora era pressoché impossibile. Comunque una rivoluzione copernicana è il concetto di sistema. Noi, rispetto a Cartesio, rispetto ad Aristotele, rispetto a tutti gli altri, stiamo vivendo in un mondo diverso, e la nostra scuola non è ancora interiorizzata, il nostro sistema. Qui dentro, per esempio, c'è moltissimo della biologia attuale, della genetica, che raramente si studia molto della scienza delle macchine, cioè della fisica, se volete, dell'ingegneristica, in realtà è entrato nel concetto di sistema. Qualcosa si fa anche sul livello umano. Jay Forrester, 1968, 64, esce con Urban Dynamics, le dinamiche urbane, e entriamo nei sistemi anche per il mondo dell'economia. Non le richiamo più, le variabili, e basta. Ecco, semplicemente vi ricordo il concetto di dominio, una cosa su cui i manager si scontrano e fanno spesso casino. Le variabili hanno un dominio. Quando vi ponete dei problemi di quantificazione, in realtà vi ponete dei problemi di dominio. Ecco, pensatelo subito come dominio e fate prima, no? In sostanza, il dominio è quello spazio fra una soglia minima e massima. Quindi rilevare il dominio significa rilevare la soglia minima, la soglia massima di una variabile. Ce ne sono alcune che vanno da meno infinito a più infinito, ma è molto sospetto questo fatto, In realtà vanno da meno infinito a più infinito perché non abbiamo le misurazioni. Gran parte ha un dominio, e io suppongo che ce l'hanno tutte. Le relazioni funzionali ve le risparmio, no, le riprendo. Ecco, le relazioni. Adesso parliamo di relazioni fra variabili, prima di entrare nel sistema vero e proprio. Pensiamo a quello che, se volete, è l'unico vero dono che ci ha fatto l'economia, perché la relazione si è rivelata vera in molte circostanze, eccetera, eccetera. la relazione domanda-offerta-prezzo. Come sapete, siamo governati da questa terribile variabile che dice che il rapporto fra la quantità domandata di un bene e la quantità offerta, in un sistema a libera concorrenza, ma non solo, anche a monopolio in realtà, purché non sia un sistema a prezzi prefissati, e ormai non ce n'è quasi più, in Italia gli ultimi sono spariti negli anni 70, genera il prezzo. Se la domanda, non riesco, perché io mi sto dimenticando che non sono in Bocconi, la domanda vi è chiaro, no? La domanda siete voi in sostanza, il consumatore finale è uno che la domanda, le aziende per i loro mercati sono loro, l'offerta invece sono le imprese offrono quel bene, quel servizio, eccetera eccetera. Se la domanda eccede il prezzo, scusa, se la domanda eccede l'offerta, cosa succede sul prezzo? Qualcuno mi aiuta, magari lo stesso Aldo? Rapporto domanda a prezzo più di uno, in sostanza. Che succede al prezzo? Petigiano. Domanda superiore all'offerta. No, se la domanda è superiore all'offerta, il prezzo sale. Attenzione, qui ci sono le bolle. Se l'offerta eccede la domanda, il prezzo scende. Però c'è un piccolo fatto, che il prezzo incide pure sulla domanda. Guardate la terza e la quarta. Perché se il prezzo sale, la domanda che fa? Inversa. Quindi, attenzione, abbiamo toccato con mano una relazione inversa. Se il prezzo sale, cosa fa l'offerta? Eh sì, le aziende trovano più convenientemente. Che è un problema che tanto ci stiamo portando dietro. Allora, abbiamo scoperto il concetto di relazione diretta inversa. Ah, dicesi, come dice Fantozzi, relazione diretta, quella in cui la causa, attenzione, la causa di quel momento e l'effetto variano nella stessa direzione. Sale la causa, sale anche l'effetto. Cala la causa, cala anche l'effetto. Attenzione, è diretta anche quando calano tutti e due, purché il movimento sia uguale, simmetrico perlomeno. Dicesi relazione inversa, quella in cui l'effetto si muove all'opposto della causa. Sale il prezzo, scende la domanda. È relazione inversa, è importante. Dulcis in fundo non lo mettiamo mai per, no? Esistono anche relazioni miste, in cui un po' la relazione diretta è un po' inversa o viceversa, però non è importante. Ecco, questa condizione è un altro modo molto importante di aggredire il concetto di sistema. Il sistema è una serie di relazioni. La prima cosa che ci dobbiamo domandare è se tale relazione è diretta o inversa. Perché, essendo il sistema in fondo un anello, feedback loop, no? Richiamato da prima, è importante sapere se quel loop, quell'anello, o di retroazione se preferite che lo dica in italiano, ha segno positivo o negativo, se è diretto o inverso. Perché le prestazioni del sistema dipendono molto dal tipo di feedback che c'è dentro. In realtà poi scoprirete che ce ne sono tanti e non sono facili da scoprire, però i sistemi semplici, cioè i sistemi con pochi feedback, vi sto dando subito il concetto di sistema semplice, il tipo di relazione è estremamente importante. E comunque adesso ci passiamo, lasciamo perdere le equazioni che... Ah, solo un concettino. Allora, avete visto prima, anche quando facevo la triviale immagine del gabinetto, io avevo tre variabili che sono il sistema, no? L'acqua che entra, l'acqua che sta lì ferma, l'acqua che esce. Queste tre variabili sono il sistema e sono in relazione causa ed effetto contestuale. Ma vi ho anche fatto vedere altre due variabili. Allora, le tre variabili che sono il sistema si dicono endogene. Quelle che stanno fuori, per esempio il gesto di tirare la catena, oppure quel livello obiettivo che è la Y grande, sono esogene. Questa è una cosa che gli economisti non hanno ancora capito, per dirvelo tutto. Beh, non è la sola. Sfido qualunque, no, non è la sola in effetti. Sì, però la pretesa di essere scientifici mi fa incazzare a morte. Allora, beh, questo forse non è così importante. Un sistema ha due facce, una strutturale e una funzionale, ma non è così importante perché voglio arrivare a cose. Ecco, comunque va bene l'esempio, lo vediamo meglio in altre cose. Allora, feedback. Quando io ho un feedback positivo, vedete quello che è un sistema pur piccolo, quello giallo a sinistra, un capitale dell'interesse. Il capitale fa crescere l'interesse, relazione diretta. L'interesse, se non te lo porti via, ma non c'è la variabile prelievo, fa crescere il capitale. Qui c'è una storiella, no, che si racconta sempre a lezione di matematica, ma anche in banca. Il dollaro, l'ho scritto da qualche parte, il dollaro è stato coniato nel 1785, esattamente il 6 luglio. Ecco, quel giorno John Doe entra in banca, concorda un interesse 4% immodificabile e lascia $100 freschi di conio, sono lì. 220 anni dopo John Doe X, allora poi lui va via, ma muore, va nel Far West e muore, anche se quei tempi non andavano ancora nel Far West, comunque muore, però lascia il documento agli eredi, e gli eredi non lo toccano questi $100, non li toccano mai, finché nel 6 luglio 2006 John Doe X va in banca e a ritirare quello che è rimasto, no? Ecco, da $100 ne trova dentro 558.901. Perché? Perché la relazione è esponenziale, il concetto di interesse composto, che è il primo tema che i bancari fanno ai loro collaboratori, no? Ed è giustissimo. Non succede mai questo, perché se no i nostri antenati avrebbero potuto pensarci, però, e questo è un primo esempio di contabilità. Notate la curva verde, che spero che si veda bene, qui è un po' chiaro, io ho fondi più scuri, scusami, ma non è una lamentela. Vedete la curva verde? Come per tanti anni, per 180 anni, un po' meno, là, 150 anni, si è mossa pochissimo apparentemente. La mente umana dice, ma che cazzo, quei $100 lì non producono niente. L'ultimi 100 fa un balzo, anzi gli ultimi, no, meno di 100, molto meno, diciamo 40-50, ecco, 40-50, li vedi. In realtà la curva è sempre la stessa, è il carattere dell'esponenzialità. Un primo esempio di controintuitività. La esponenziale ti frega moltissimo. Ricordo che Forrester entrò a rompere le scatole degli economisti proprio nel 1964, quando ha fatto Urban Dynamics, che era la crescita e il declino di un grande centro urbano, Boston per l'esattezza, lui era all'MIT. E lui raccontava sempre la storia di una ninfea. C'è un lago bello grande, c'è una ninfea. Questa ninfea ha la caratteristica di raddoppiare ogni giorno, le ninfee in effetti si sviluppano molto velocemente. Io ho stabilito che intervengo sulla ninfea quando avrà occupato metà del lago, prima non me ne frega, non mi dà noia, è poca roba. Ma quando la ninfea ha occupato metà del lago raddoppiando ogni giorno? Il giorno prima di coprirlo. L'ultimo giorno raddoppia e copre tutto il lago. Quindi la crescita esponenziale è terribile per il nostro mondo, perché sei sempre fuori tempo, no? Perché intervieni sempre quando percepisci il fenomeno, solo che lo percepisci a questo punto è molto veloce, è molto significativo, ne parlavamo, no? Non so se sono riuscito ad essere chiaro. In un sistema feedback positivo la crescita è esponenziale. La crescita o il declino, attenzione, vale nei due casi, è esponenziale. Beh, è il caso anche della famosa episodio per cui l'inventore del gioco a scacchi regalò gli scacchi a questo scià di Persia, era l'antica Persia, no, se non sbaglio, sì, sentì dire, i persiani sono molto orgogliosi, cosa vuoi in cambio di questa invenzione, e lui chiese semplicemente una quantità di grano pari a un chicco di grano nella casella iniziale che sarebbe raddoppiato costantemente in tutte le altre caselle. Lo scià pensò che si trattasse di al massimo un sacco di grano, alla fine venne fuori 2 alla 64esima, non mi ricordo. L'equazione è quella, no? È 2 nel caso specifico, elevato alla 64esima, del raddoppiamento. Ed era un risultato assolutamente fuori del mondo. Ecco, quindi è esattamente lo stesso meccanismo. E qui la formula non ve l'ho data, ma tanto non mi piace. È uno dei motivi per cui si è estremamente preoccupati per il prezzo del petrolio, perché quando si è cominciato ad avvertire il fatto che fra domanda e offerta c'è ormai un andamento lineare, questo significa che rapidamente raggiungeremo prezzi. Esponenziale, eh? Fate esponenziale la cosa. Ecco, altri feedback positivi. Per esempio, questo ci è molto caro perché dimostra che le imprese non sono sistemi etici, toglietevelo pure dalla testa. Beh, ma questo la variabile, una delle tipiche variabili su cui si giocano le carriere, no? La credibilità, o fiducia se preferite. Un capo può essere credibile o non credibile, una variabile che ha un dominio 0-1 come tante altre. La credibilità ha una relazione diretta con la disponibilità di risorse. A chi dai le risorse? Al capo credibile. Se non è credibile non gliele dai, se non hai fiducia non gliele dai. Ma se tu hai le risorse raggiungi più facilmente il successo. Più risorse più successo. Se raggiungi il successo tu diventi più credibile. In sostanza, il capo meno credibile non riceve risorse, diventa sempre meno credibile e alla fine il sistema si divarica, ecco, completamente. L'azienda non è un sistema etico, non può esserlo, perché se tu fossi in un sistema etico daresti le risorse a chi ne ha bisogno, no? Le dai a chi le sfrutta e che di solito tra l'altro non ne ha bisogno perché gli hai già dato. L'altro invece è il discorso che voi non avete vissuto, ma è stato terribile per la nostra vita. Terribile, devo dire, io dall'altra parte della barricata, no? L'indennità di contingenza, no? Che venne concordata, c'era anche Agnelli. Nel 1975, era presidente di Confindustria allora, te lo ricordo. O l'ha studiato. Nel 1979. Te lo ricordo, ero sindacalista all'epoca. Ah, ecco, figurati, eri dall'altra parte. Ecco, io facevo i conti, ma molto dopo, non nel 75, no. Allora, nel 75 si firmò questo accordo che prevedeva per tutte le industrie, forse poi anche i servizi sono arrivati dopo la contingenza. Tutti. Punto unificato di contingenza. Punto unificato di contingenza. In cui, in sostanza, l'Istat leggeva le dinamiche dell'inflazione, no? E in base a quelle automaticamente lo stipendio si muoveva. È chiaro che si muoveva in aumento, no? per fronteggiare l'andamento dell'inflazione. Ve lo ricordate? No, ma che voi che siete? No, non ero manco nato. Beh, però è morto nel 92, Nel 92 credo ci fossero già. 92, questi saranno nati mediamente nel 90. Eh beh, non mi ricordo. Io ho cominciato a lavorare nell'80. È stata l'ultima operazione di Craxi, invece mi ricordo. Comunque sia. No, Craxi, il taglio dei fondi contingenti lo fece nel 85. Sì, però l'abolizione è del 92. Perché... L'abolizione di Amato. Ah, ecco, Amato. Quando i sindacalisti rimediarono un po' di bulloni in piazza. Ecco, il discorso finale comunque, che noi con quello, vedete, abbiamo un meccanismo per cui i salari, il costo della vita, parliamo di lì, il costo della vita aumenta i salari aumentano il costo di produzione aumenta i prezzi aumentano il costo della vita aumenta questa cosa. Eppure adesso voi scuotete la testa, sorridete su questo, le battaglie sanguinose che si sono fatte, perché era chiaramente una bestemmia, ma nasceva da un'esigenza reale. I contatti che si chiudevano, e tra l'altro qui c'è molto del sistema, molto dell'internazionalizzazione, i contratti che si chiudevano prima di quegli anni lì, contratti di lavoro intendo, erano sempre una fregatura per i lavoratori, perché le aziende chiudevano il contratto, aumentavano i prezzi e quindi praticamente il potere d'acquisto nella seconda metà degli anni 70 non si muoveva, cioè in fondo compravi sempre le stesse cose. Con la contingenza scoprirono un meccanismo per starci dietro, per evitare questo tipo di truffa se volete, questo meccanismo. Il fatto è che questo ci ha dato, siamo arrivati un mese a oscillare intorno al 30% di inflazione. Sapete cosa vuol dire questo? È pazzesco, è Sud America in sostanza. Beh, vabbè, però un momento. Questo meccanismo della spirale dei salari nell'economia politica adesso è uno spauracchio, la spirale dei salari. Ogni volta che si parla di un risalto, certo. C'è sempre la paura, no, torniamo alla spirale dei salari, mi ricordo che l'ho sentito. Aspetta un po', questo è uno dei punti su cui probabilmente non siamo d'accordo, Lamberto ed io, per la diversa, io vi ho sempre detto che... non ci sono risposte oggettive, ma in qualche modo c'è la collocazione di ciascuno di noi. Da un lato va detta una cosa, però onestamente, che l'aumento dei salari, l'indennità di contingenza, non era esattamente in proporzione al percorso della vita, era meno. La curva era un po' quindi, la curva ma era non tanto. No, abbastanza, perché ad esempio c'era una cosa, alcuni prezzi del cosiddetto paniere, perché il costo della vita non era il costo reale, era il costo stimato su alcuni beni ponderati in una certa maniera. Allora, ad esempio, nel famoso paniere non c'era la benzina, perché quando si fece, il sindacato, con atto lungimirante negli anni 50, disse che la macchina sarebbe stata una cosa per ricchi, che non riguardava i lavoratori, che non avevano mai avuto la macchina, e quindi la benzina non gli fregava niente ai lavoratori, una mossa di rara astuzia politica, come potete capire. In compenso c'erano le candele steariche, che naturalmente avevano un prezzo stabile perché nessuno le consumava più, e altri beni, come per esempio il prezzo dei quotidiani o le sigarette, non erano tutte le sigarette, erano solo le nazionali, il cui prezzo era tenuto volontariamente calmierato proprio per non far scattare i punti di contingenza. Quindi intanto non c'era poi questo rapporto così diretto. In secondo luogo va detto che però dopo l'abolizione si è messo in moto un feedback di segno contrario, per cui di fatto noi abbiamo provocato una svalutazione dei salari che si è riflettuta pesantemente sul mercato interno. Tutto il mondo, è vero. Noi siamo i peggiori. Ha prodotto soltanto una concentrazione di ricchezza come non c'era prima. Certo. Ah, ecco, allora siamo là. Ma non solo in Italia, quello. Siamo no, là. Uno dei cioè, problemi abbiamo drammatici. Tolto, abbiamo tolto denaro alle classi subalterne e lo abbiamo trasferito alle classi più ricche. Siamo tornati in una situazione nella quale il 2% della popolazione più ricco ha il 60% dei beni di un paese. Punto. Ecco, questa era giusto una precisazione. Comunque, visto anche dall'altra parte, ditelo ai vostri economisti, per esempio, uno dei fatti in cui ho notato veramente c'è grande sordità è che regolarmente dalla nostra entrata nell'euro, ricordo che l'euro ci impedisce tutte quelle manovre di svalutazione che si fecero allora, che furono pazzesche, mi ricordo Amato il 30%, eccetera, eccetera, pazzesche! E la svalutazione ha un costo, ragazzi, non è vero che non ce l'abbia, ce l'ha anche sui lavoratori. Comunque sia, noi abbiamo sempre 0,5, 0,4, 0,7, 0,8, 0,9 di inflazione superiore alla media dell'Europa. Attenzione che l'inflazione è esponenziale. Questo, ragazzi miei, quando vi farete una famiglia vi metterà nei guai fino all'orecchio. Quello, io lo dico da mesi, qui con questa storia che noi abbiamo un'inflazione superiore, ma abbiamo la stessa moneta, quindi abbiamo lo stesso valore di moneta, siamo nella merda fino all'orecchio. Nessuno mi dà retta, cazzi loro, io tanto sono anziano, me frega. E questo è perché il pessimista ero io. Allora, però c'è anche la condizione opposta, feedback negativo. Feedback negativo significa che allora in una relazione abbiamo almeno una variabile inversa. Anzi, dovete applicare le leggi dell'area, abbiamo un numero dispari di relazioni inverse fra variabili. Questo è un bellissimo modello e devo dire che sono veramente grato all'ISVOR Fiat, che è il più grosso istituto di formazione manageriale. Io sono stato il responsabile dal 76 al 2004 e ho lasciato per età della formazione manageriale fatta agli alti potenziali e ai top managers. Ecco, come si impara? Questo forse non l'hai mai visto, no? Noi abbiamo lavorato duramente perché bisogna dire tutto il male possibile delle imprese. Di sicuro un'impresa come Fiat non ha una grande efficienza, di sicuro in un mercato terribile, però un po' di pensiero ogni tanto c'è, questo è un caso specifico. Siccome si spendeva molto in formazione, hanno detto ma qual è il meccanismo del sapere? Cosa su cui avrebbe dovuto pensarci lo Stato, eccetera. E abbiamo notato che la curva del sapere, ve lo giro subito, ma vedete che c'è una relazione inversa. In sostanza, il sapere è sapere, ecco, l'abbiamo precisato per dire come si quantificano le variabili. Sapere l'abbiamo fatto e lo potete fare anche altrove, basta un minimo, diciamo, di logica. Sapere qui vuol dire numero di conoscenze medie possedute dal lavoratore fratto totale conoscenze necessarie allo svolgimento di quella mansione. Quindi, come tante altre che avete visto, è una variabile che ha un dominio 0,1. 0 non so fare un cacchio, 1 so fare tutto. e abbiamo spazio anche per fattore qualitativo. Fratto, vede che si mi serve sapere 0,30 per svolgere la mia mansione. Esatto, esatto. Questo poi su quello raggio. In realtà, attenzione, sapere. In realtà vi anticipo il modello, ma un giorno mi piacerebbe farvelo vedere, perché tra l'altro questo è un caso in cui mi hanno dato la facoltà di girarlo, perché ne sono molto orgoglioso. Loro hanno lavorato come cani, facendo ricerca sul campo. In particolare io ricordo la terribile teutonica dottoressa Carozzi, che anche lei monferrina come me, una tigre, ecco, gli ha fatti lavorare, perché la far lavorare i formatori aziendali è una cosa dura, di solito la vita la prendono molto bene, soprattutto a quei tempi là quando la formazione era molto valutata. Questa è la solita polemica con gli intellettuali umanisti che hanno questi matematici. Comunque gli ha fatti lavorare ed è venuto la combinata di sapere e saper fare, dove sapere viene acquisito in aula, ma loro stessi riconoscevano, ISVO è aula, no? C'è un saper fare che è frutto della curva di esperienza, lo fai solo lavorando. La combinazione delle due ti dà la competenza, che è quell'indice poi globale. Si misurano nello stesso modo, peraltro. Ma tu. Però c'è di bello a favore dell'aula che il sapere è una condizione di saper fare. Se tu hai sapere zero, saper fare sarà zero per definizione. È una relazione moltiplicativa. Poi hai degli andamenti un po' bizzarri fra sapere e saper fare. Ma il saper fare è soprattutto esposizione. Una delle cose più belle che riconosce, attraverso le quali tu riconosci che in effetti trattare le risorse umane bene è una buona cosa ed è positiva per l'impresa, è il fatto che per esempio l'esposizione al lavoro, al carico di lavoro, per un po' è benefica, ma quando eccede certo un certo limite è malefica. Quindi hai una curva gaussiana: quando tu carichi, cioè la persona di responsabilità, il tuo saper fare non aumenta, diminuisce, perché fai tutto in urgenza, eccetera, eccetera. Comunque vi do l'output. No, spieghiamogli come funziona. Beh, che questo gli può servire anche. È che quello spazio è un po' astratto, perché lo spazio è proprio un'invenzione dell'ISO. Ma in sostanza. Ma spieghiamolo un po' meglio. Ma in sostanza. Allora, esiste, e mettetevi il cuore in pace, l'ho proprio guardato qualche giorno fa con mia nipote che si è laureata quattro anni fa al Politecnico. Esiste una vita utile del vostro sapere. Uscirete di qua, dopo n anni non ci sarà più niente di quello che avete imparato qua, se non una piccola parte che vi rimane. La cosa differisce molto. Mia nipote si è laureata in ingegneria delle telecomunicazioni, noi abbiamo fatto due conti, dopo 4 anni un 75% è ancora buona, ma lei ha perso alcune cose, parlerei di tutta, fa un altro lavoro, quindi non ha potuto. Precisiamo, perso. Credo nel vostro campo forse la vita utile è un po' più alta. O perché, vabbè, non serve più. Dimentichi, ma soprattutto perché è superato. Sì, ma anche dimentichi. Ci sono tutte e due le cose lì, no. Le abbiamo messe insieme, ma nel modello è diverso. E le abbiamo chiamate obsolescenza. Allora, la relazione fra sapere e obsolescenza è una relazione inversa. Sapere, più sapere, più obsolescenza, meno sapere. Ci sono alcuni lavori, per esempio dell'informatica, che hanno avuto cicli di vita inferiori ai 2 anni, in cui tutte le conoscenze si rovesciavano e tutto. Il mio è stato un caso tipico. Io sono nato con i grandi sistemi di programmazione scientifici di un tempo, Fortran e Algol, nessuno di voi ne ha saputo parlare, anche chi è esperto di computer. Io ho studiato l'Algol a L'Oreal, è bellissimo, Poi è arrivato il signor Gates, è maciulato, perché mi ha buttato a terra, non c'era più un programma che reggesse questo, ho dovuto impararmi il basic, io che avevo quasi 40 anni. Però è bello, come linguaggio, è un linguaggio scientifico, noi dobbiamo usare i linguaggi scientifici, non i gestionali e tutto, no? I gestionali avevano il COBOL come grande linguaggio, però dopo si sono trovati un po' meglio. Ecco, io ho avuto le mie conoscenze di studio nel giro di un anno o due, ho dovuto rimboccarmi le maniche e tutto. In caso di mia nipote è già diverso, in caso vostro forse sono un po' più durevoli, perché lo zoccolo duro umanistico, un po' più di vita ce l'ha, però ricordatevi, è deperibile. In compenso però io... E orca, cacchio, non riesco a restare. In compenso, esponendovi all'aula, vedete qui la formazione, noi l'abbiamo sempre trattata in ore, e vedrete poi 4 simulazioni in cui tratteremo diverse intensità di formazione. Di solito si misura in ore mese, noi qui vi ho dato un caso di ore anno, ma non cambia nulla, ecco. Ore anno significa, ore mese, no, ho messo dentro ore mese. Allora, L'apprendimento è certamente ha una relazione diretta col sapere, se vai in aula ti esponi, ma il sapere, l'acquisizione di conoscenze, sento un po' di agitation, siamo fuori tempo? No, siamo verso la fine. Perché vedo di questo punto un po' di fermento, il resto vediamo poi se vuoi parliamo un'altra volta. Ma davvero? No, finiamo questa e dopodiché sentiamo se c'è qualche domanda. Allora, la riprendiamo. Il sapere però riduce quello che noi non abbiamo trovato, perché non è mai stato studiato questo, però vi ripeto, sono grato all'ISPO perché insieme abbiamo fatto l'esperienza bellissima. Uno spazio di acquisizione, in sostanza c'è una soglia che via via, che forse è quello che vi sta succedendo, no? Dopo un po' non ce la facciamo più. Questo incide inversamente poi ovviamente con l'apprendimento attraverso un passaggio. Maggiore lo spazio, maggiore l'apprendimento, ma maggiore sapere e minore l'apprendimento. Vi faccio vedere quattro simulazioni. Pensate quanto sono importanti. Allora, quattro casi con diversa vita utile, perché ogni mestiere ha la sua vita utile, questa è la disgrazia, e diversa formazione. Quattro ore di formazione mese, mezzogiornata in sostanza. Vita utile delle conoscenze, la Fiat è un ambiente ingegneristico e quindi è abbastanza veloce. Quel 10 anni credo che ci sia molto poco, forse qualche area amministrativa, eccetera, eccetera. Altra simulazione, 4 anni, 4 ore, 2 anni e mezzo, questo è tipicamente l'ingegneria e tutte quelle robe lì, lo stile e tutto il resto. 16 ore di formazione mese, 2 giorni. E 10, sono tanti, 2 giorni moltiplicate per 12 vuol dire 24 giorni all'anno, sono ben poche le aziende che lo fanno. L'ISVO faceva allora, però faceva per certi profili professionali, faceva i 16, i 12 e quelle robe lì, hanno 12 giorni. E l'ultimo caso 16 con 25. Guardate il risultato a livello della variabile sapere, è stata misurata sul campo, è questa cosa qui. La simulazione 1. Poca formazione, diciamo, lunga vita utile, raggiunge una soglia di competenza intorno al 90%, la raggiunge però molto lentamente, quello che è qua sono mesi, quindi sono 5 anni, ci vuole 5 anni, quindi il tempo è lungo, ma la spesa è pure poca, ecco, tenetelo presente. Quella rossa, per esempio, in cui io ho sempre 4 ore, però ho una grande velocità, questa mi raggiunge delle soglie un po' balordine, per tirare su per fare, perché il massimo mi fa il 70, vedete che non cresce più, questo è il tipico del feedback negativo, cioè che raggiunge una soglia, si ferma lì. Quella invece di grande somministrazione, beh, se la Simul 3 vi sparisce, ma è questa, vi sparisce qua, la Simul 3 raggiunge quasi il 95%, ottima cosa, però attenzione, lo raggiunge subito, lo raggiunge in poco più di un anno a quella velocità di 16. Forse non ti conviene continuare così con questo tipo di intensità, perché il guadagno marginale, e vi parleranno molto gli economisti di guadagno marginale, diventa piccolissimo a quel punto lì. Ecco, pensate l'uso che si faceva in azienda allora, quando abbiamo lavorato su questo eravamo intorno all'82-83, poi è stato applicato in banca, in una grandissima compagnia di assicurazione, grande banca, grande compagnia di assicurazione. Noi allora avevamo a livello di quadri e di dirigenti più di 45.000 persone. Pensate i danè che erano in ballo su questa roba lì. Per cui tante volte conoscere queste cose così culturali, così strane, così rare, è ricchezza per l'impresa. Su quello l'ISVO ha fatto tutti i suoi programmi. Perché ho l'impressione che siamo arrivati appunto sì, a sì, me ne rendo conto. Li vedo nel preferisco resto. Che ci sia qualche domanda, vuol dire che vabbè la prossima lezione, che è il 10 giugno, no, mercoledì è, il 9 giugno, la rifacciamo non con lo stesso orario, perché non posso chiedere di nuovo il quarto d'ora ai colleghi di prima e di dopo, faremo una lezione regolare, però concludiamo. Poi il 10 faremo una lezione regolarmente, l'11 giugno faremo un'altra lezione a due voci con il corrispondente dell'agenzia AGICINA, della AGI da Pechino, e la faremo per quanto riguarda la Cina, quindi il nuovo soggetto mondiale della globalizzazione. Questa è un'altra cosa, però completeremo mercoledì con il professor Alberto. Tu mercoledì ci sei? O giovedì? No, beh vabbè, ve lo dico dopo se facciamo mercoledì o giovedì. Adesso magari spazio per qualche domanda telegrafica e risposta telegrafica, giusto qualcuno? O se qualcuno ci vuole fermare, io sono qua. Sì, se poi magari vogliamo fermarci un attimo fuori, vabbè. Allora, c'è qualche domanda? Guarda, sei riuscito a stroncare i più accaniti. Io non ero mica contento. Sarà il fatto che non sono abituato, perché con me non sono così rispettosi. Guarda. Io ho la statistica a Bocconi. Allora, ragazzi, capisco che è un orizzonte totalmente diverso. No, non vorrei solo essere stato noioso, per cui mi è sfuggito. Ecco. No, se ne sarebbero andati, non è quello, se stanno. No, il problema è capire che cosa vi è rimasto, cioè se ci state nuotando in questo mare di nozioni o ci state affogando. Allora. La materia è valore, ve lo ricordo. Ho visto fior di manager, gente che ha il fil di ferro sullo stomaco, che su queste robe qui. Per dirvene una, questa lezione, noi siamo alla, non mi ricordo, quante ne avremmo fatte di slide in questo momento? Vi davo una dimensione. Ebbe una trentina, secondo me, tutte quante. Una trentina, allora siamo andati come fulmini, fin troppo. Sì, la trentina ci stanno. Ecco, sono una 75ina, cioè più o meno è quello della Bocconi, e il discorso io in Bocconi lo facevo facendo, io ho sempre fatto la continuità delle 8 ore, io facevo 6 ore e facevamo poi 2 ore di lavoro di gruppo, gli davo un compito, dividevo in sottogruppi e poi giravo fra i sottogruppi, e io facevo 6 ore, ecco, questa lezione qui era una lezione di 6 ore, quindi l'abbiamo fatta in 2, diciamo che probabilmente avevamo bisogno di 4, ma è sempre meno. Devo dire che i borgognani sono molto più rompiballe di voi, perché in più si offendevano molto quando io facevo battutacce sugli economisti, e allora c'era sempre qualcuno che ti alzava la manina. Non li fate, allora, ragazzi, sono forza. Già impopolari. C'è qualche domanda magari utile per la prossima? Diena, dimmi. Sì, io sono incuriosito sulla differenza tra il manager economico e quello politico, che il manager economico ha più una formazione ingegneristica o... Allora, quella ti risponderò io in una prossima lezione, che è quella degli effetti sociali della globalizzazione, anche perché è una cosa che ho sostenuto io, quindi. Va bene, poi altre domande? State già collassando. Molinelli, sto fatto che oggi sta zitto mi preoccupa, sto fatto che oggi sta zitto mi preoccupa. Ho l'impressione che un po' abbiate perso il contatto. Guardi, dimmi. Io devo fare una domanda che è un po' eccentrica, perché sinceramente parlando di banche, di profitti delle imprese, non sono argomenti che mi portano, nel senso, con tutta la simpatia per le banche e per le imprese. Però. Ah sì? 3 voti in meno all'esame. No, no, no, c'è un po' legato ai rioni. Sulle banche le conviene tirarsi sulle maniche, perché una delle cose, mi sono dimenticato di dirlo, ne parlavo con degli miei amici americani, in America hanno intenzione di lanciare a livello pubblico, se convincono Obama, un insieme di corsi verso tutto il sistema, perché l'ignoranza in materia finanziaria è stata catastrofica per l'economia, ma soprattutto a livello individuale. Attenzione. Ai corsi. Allora, fai la domanda. No, no, ma lo dico per tutti, cioè... leggete qualche cosa, ecco, perché se no vi rovinano, ecco, veramente. A questo ci penso io. Allora, la domanda qual è? Qual è? No, la domanda è, lei parlava di quantificazione, però siccome io penso più che al manager economico, al manager politico, mi chiedo in che modo appunto ci sono questi, cioè il sistema, perché il meccanismo non lo capite, l'ambiente, però l'ambiente cui si trova ad agire un manager politico, oltre alla carenza di informazioni dovuta al fatto che vengono occultate, che probabilmente non ci sono dati statistici come nell'economia, però deve anche agire in un ambito culturale, cioè come si vanno a quantificare gli effetti sulle persone che sono socializzate in un certo ambiente culturale, un dominio con una formula matematica. Per esempio succede quando si vota. Quelli sono numeri, Sì, però c'è, cioè, nel senso. Quando si fa un sondaggio. quando c'è uno sciopero si calcolano le ore, quanti lavoratori hanno aderito. Qua, ci sono molti indicatori numerici, sa? Il problema è nato. Poi non usi quel termine, abbi pazienza. Formula matematica, che cazzo vuol dire? No, nel senso, quantificazione. Parli di relazione causa-effetto. Beh, lei pensa che nel suo mondo non ci sia. No, lui lo pensa, però fa difficoltà a quantificare. No, ma sì, l'ho capito, fa difficoltà a quantificare. Ma poi ha parlato di formula matematica, mica si quantifica con una formula matematica. La formula matematica semmai risolve. Allora, non mi sentirà mai dire che i sistemi umani sono ottimizzabili, ma anche le imprese, che sono spesso molto più complesse di questi piccoli mondi del consenso e di quelle stupidaggini lì. Nessuno ha parlato di ottimizzazione, no, lo dico per tutti. Attenzione. Qualcuno, l'istanza del io porto un messaggio dove c'è un grande ruolo della creatività, dell'umanesimo, se le dice lui, perché i sistemi non sono traducibili in una formula matematica, per quello che mi sono incazzato. Non sono traducibili perché non sono ottimizzabili. Questo non è positivo, è una disgrazia, perché dove è arrivata la matematica l'uomo è andato avanti, dove non è arrivato molto meno, compresa l'economia, dove non è ancora arrivato. Però attenzione alla formula matematica, nessuno ve lo insegna perché sarebbe, da parte mia, sarebbe veramente una coglionata gigantesca. Aspetta che te la spiego dopo. Dalla Svezia... Sì, le parei, Dalla Danimarca, perdono, scusa. Dimmi. Volevo chiedere che calcoli avete fatto per calcolare chi è stata la Spagna e il mese? Rasmussen vuol sapere com'è che abbiamo azzeccato. Beh, ma ce l'abbiamo il modello terroristico? Sì, ce l'abbiamo, però a parte che l'ho spostato non riesco, ve lo faccio vedere. No, ma tanto era però non mi chieda, perché sennò ricado nel guaio di prima della formula matematica. Il modello terrorismo nostro c'ha in questo momento, ed è insufficiente, io spero di trovare un giorno i danesi per andare avanti, 7700 equazioni. Quindi lei, se lei mi chiede di sintetizzare 7700, io qui però ho qualcosa, le posso vedere quali sono le grandezze in gioco. Comunque l'abbiamo ottenuto per simulazione, non per ottimizzazione, e sto sulla polemica di prima. L'ottimizzazione non esiste, la previsione perfetta non esiste. Esiste la simulazione, cioè il processo per tentativi. Su un processo per tentativi con buon computer, se lei però mi chiede di sintetizzare quasi 8000 equazioni, le giuro, mi mette a dura prova. Non è una formula, mai! E se no non vi parlavo del concetto di sistema, ragazzi. Il problema è che sono è quello che... Urini, dimmi. Sì, io volevo chiedere una curiosità. Abbiamo parlato delle... per quanto riguarda le decisioni, appunto fatto che il manager prende decisioni. Io mi chiedo, ma è rimasto o c'è adesso un campo decisionale in cui si possono prendere decisioni a lungo termine? Perché me... dall'impressione che mi ha dato questa lezione che sinceramente non sono riuscito a seguire proprio tutto. Ci sono un po' persi questi. Ci sono tutte le cose di cui abbiamo parlato, si parla di prendere decisioni così, però dall'impressione che ho avuto mi sembrava tutte decisioni a breve termine, nel senso come abbiamo detto anche lezione. No, breve e lungo. Mi distingo a breve e lungo e poi sfondo una porta aperta. Cos'è il breve e lungo termine per lei? Quantifichi in anni? Dipende appunto. Le ho parlato di ritardi. Bollini. Ritardi vuol dire andare sul lungo periodo. Ragazzi, ma perché siamo una crisi pazzesca da cui non ne usciremo, uscirete con le ossa rotte? Perché il manager disgraziato pensa a breve periodo, quel concetto di valore che le ho dato. È una coglionata gigantesca perché introduce sulla scena delle imprese, io quando ho cominciato, quantomeno si ragionava su 5 anni. L'Iveco aveva uno spazio di pianificazione di 5 anni, in realtà non lo guardava moltissimo, guardava il triennio, ma il triennio lo guardava. Da quando è stato introdotto il concetto di valore dell'impresa, ragionano all'anno o al quarter gli americani, ma questo è un dramma, sarà un dramma per le vostre generazioni. C'è controintuitività che... Abbiamo fatto un esempio che è quello della scuola, che è proprio una cosa di lungo periodo, perché i disastri che sono stati fatti da Ruberti nel 90 e di cui adesso iniziamo ad avvertire gli effetti, li pagheremo fra 30-40 anni. Altro che... Comunque scusatemi, cioè, perché questo è proprio da queste osservazioni di individuare mi sento un po' in colpa, mi sento un po' in colpa, chiariamo, poi lei voleva dire qualche cosa e deve dirlo perché lo so, ma è stato un po' io sbagliato. Allora, punto primo, io vi ho parlato di presa di decisione, io ho parlato di quantificazione, ho parlato di nessi causa-effetto, non ho mai parlato di matematica fino a nessi causa-effetto, ho parlato di teoria dei sistemi, abbiamo appena cominciato, ecco, dovevamo ragionare. Ragazzi, è questo il messaggio che io passo, non altri. E allora, l'ultima breve o lungo termine, se c'è sistema c'è lungo periodo, è questa la disgrazia in cui stiamo vivendo in questo momento. Ultime due domande voi due e la risposta alla prossima lezione, e poi dobbiamo lasciare l'aula perché alle 12:15 e alle 1:15 io ho garantito la lascerò. 3 secondi per enunciare la domanda. Forza. Cos'è? Oh mamma, ma perché l'ho citato? Lo rispetti, il valore dell'impresa è il valore. Fermati, non posso lasciare da lì. Allora, il concetto di valore è il valore di borsa. Allora, io manager, se l'anno prossimo porto al mio consiglio di amministrazione un'azione che valeva una lira, 1,50 euro, la porto a 1,75, ho raggiunto il mio obiettivo perché mi avevano detto che. Questo è drammatico per stare al suo discorso, perché significa che hai perso, magari tu l'hai ottenuto quello, licenziando 400 persone e magari vendendo le macchine più moderne che avevi. Ecco, questo dicevo, ma dimenticatelo, ma cazzo, io cito una cosa per dire che un abominio è l'unica cosa che vi ricordate, no, mi fate paura, no, ma c'è paura per me. Il valore di bocca. Cioè, la mia considerazione è che gli stessi sistemi, la stessa valutazione dei sistemi, avere dei feedback notevoli, ovviamente dal caso della guerra del Golfo del 91, in cui prima della guerra erano stati considerati una cifra di morti notevole per i militari americani, siccome questo sistema è stato smentito, cosa succede? Che è stata una valutazione erronea delle variabili, per cui si è venuta fuori la rivoluzione militare avversa, per cui da una considerazione erronea sono variabili, è venuto fuori un feedback devastante, per cui adesso si e questa è l'esempio. La facciamo la prossima lezione. No, perché c'ho la collega che. Allora ci rivediamo, mi fai sapere qua. Eccola qua. Perché qui già ho rubato un quarto d'ora, è stato un convegno con 3 relatori interni, per cui devo proprio lasciarvi la sala. Vengo poi